When you're ready to ride Metro, we want you to know we're ready for you. Here are just a few of the people at Metro to tell you how we're doing our part to keep riders safe. We're cleaning like never before, with hospital-grade cleaning. You'll find hand sanitizer stations all over the Metro. No mask, no Metro. Need one? We have a few extras. At Metro, we're doing our part to keep the D.C. area moving. Find out more at WMATA.com/doingourpart. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Le vacanze sono finite, Dietrologia Videoludica ritorna, signori, con questa nostra seconda stagione, cosa incredibile, fantastica e meravigliosa. Siccome che questa è una puntata veramente molto molto ricca e siamo pure tanti, il che significa come minimo 2 ore e mezza di trasmissione, 2:01, l'ultimo è questo fantastico episodio, e quindi vado a presentare immediatamente tutti quanti i componenti di questa puntata, perché insomma cercheremo di perdere meno tempo possibile in ciaffo. Ovviamente noi siamo ospiti, come spesso capita, da Giuseppe Saso. Ciao a tutti. Ciao Giuseppe. E con me, a te ti presento dopo, c'è un motivo, ti presento dopo. Ovviamente il nostro partner, fratello e sorella, anche un pochetto, dipende dalle sue posizioni, il nostro carissimo amico Stefano Biggio con il nuovo microfono. Ciao amici, questa è la mia voce dal nuovo microfono. Fantastico, infatti secondo me ti prenderà la voglia di fare dei podcast di notte, tipo che ne so, rock. Ora, podcast on the night. Tanti podcast, amici, e soprattutto amiche. Amiche, bravo, vedi come sei sexy. Mi sono quasi un po' ingrifato. Ma anche io, guarda. L'unico che può rivaleggiare con la voce di Stefano è ovviamente Luigi Marrone. Quindi qua dovrei fare una voce di merda praticamente adesso. No, perché c'hai pure lo stesso microfono. Tipo una voce siamo femminile. Ciao, e divertenti. Siamo simpatici e divertenti oggi, Luigi, complimenti. Ciao anche a te. Sono le vacanze, ma io ti voglio bene. Oh, io non ho fatto vacanze, per cui c'è gente che tra di noi è in vacanza perenne, però. Ecco. Tipo Simone, ad esempio. Ciao. Beato Simone, lui. Cognome Andreozzi. Ciao a tutti, buonasera. Io non parlo perché c'è questa tradizione che non si parla se non si è presentati. Bravo, bravo. E quindi ero zitto e non farò commenti. Adesso li preparo. Alla sexy voce di Biggio. Dai, puoi parlare della voce di Biggio. Che bella voce, Biggio. chi è che sta trombando? Ci baci tua madre, eh? È la mia sedia del cavolo, okay, del manga. Sempre la qualità di questa trasmissione, ricordatelo, è sempre ad altissimi livelli. Noi siamo in una condizione di emergenza perché, pur avendo portato praticamente tutto lo studio IPN qui a casa di Saso, abbiamo problemi con le cuffie, quindi loro sentono bene, io sento dei cracchi, però un po' ogni tanto sento bene, quindi andiamo avanti un po' così alla cieca. E presento l'ultimo personaggio, però prima di presentare quest'ultimo personaggio, che ovviamente è con noi, devo far sentire questo pezzo. The battle's been lost, the war is not won. An addled republic, a bitter refund. A business first, flat earthers licking their wounds. Marco, allora spiegamola questa cosa che stiamo facendo sentire in sottofondo, perché insomma c'ha un motivo un po' particolare che ci ha fatto ridere praticamente tutto il viaggio mentre... Questa è la canzone dei R.I.M. Cioè, Until the Day is Done, più o meno, dovrebbe essere più o meno questo il titolo. Però è una bellissima canzone che abbiamo sentito 5 volte Verra. Sei anche sei. Io dico, ammazza, gli è piaciuta. No, stiamo ascoltando Radio Virgin, che ha deciso di mandarla in loop fino alla morte. Esattamente. Cioè, qualcuno, ho sentito odore di inculata da, sì, da esatto. chilometri. Quindi. Esatto. E voi sapete che praticamente le radio di notte mandano tutto in automatizzato, ma probabilmente c'è anche qualcuno che fa la guardia dovesse succedere qualcosa. Questo qualcuno si è sicuramente portato la signorina negli studi, stava trombando e sicuramente non si è accorto che la canzone stava andando da circa 6 ore e probabilmente questo qualcuno sarà anche licenziato. Ma anche ma in tutto ciò poi coso Marco c'aveva anche la radio bloccata, perché se l'avete sentita tutto il viaggio. No, no, perché noi siamo rimasti noi a sentire anche dietro, noi facevamo esatto. così. Volevamo sentire se cioè nel senso ogni volta poi Virgin Radio, se adesso tu a decidere il telecomando di Virgin Radio, sei tu che decidi. Sentiamo che cosa c'è e tra ripartiva un'altra volta, quindi per noi era una curiosità, capito? Volevamo sapere fino a che punto questo strazio e probabilmente se vi collegate ancora sulle Virgin Radio c'è ancora. Anche oggi che esce il podcast a giorni di distanza, sicuramente esatto. c'è la stessa cosa. Esatto. Io vorrei fare prima di tutto un complimento alla voce di Stefano. Stefano complimenti. Guarda, io ho addirittura visto su un cesso di un autogrill la scritta Stefano Biggio fa bene i podcast con un numero grazie. Di cellulare. È veramente faccio complimenti. Chiamatemi se volete sentire bene i podcast. Faccio certi podcast da paura, si è scritto. Esatto. Complimenti. Chiamatemi complimenti. Se volete godere auricolarmente. Vedo sempre che le vacanze che non tutti hanno fatto vi hanno fatto bene. Io sì, entrerei io insomma direttamente nel vivo di questa trasmissione dicendo quello che insomma oramai annuncio da un sacco di tempo, anche se l'ho detto 50 volte e poi non l'ho mai fatto, ma questa volta è vero, che si passa il testimone, perché questa è come coordinatore è l'ultima puntata che io mi occuperò di teologia videoludica, passa tutto a Stefano e Marco, chissà che cazzo combineranno. Sì, esatto. Quindi insomma ragazzi, se questa trasmissione della prossima puntata non esiste più, sapete insomma chi dovete andare a cercare. Il problema sarà la terza puntata di cui si occuperà Stefano, che è veramente quella che ha messo in è quella che tratta un anno e mezzo del silenzio, non se lo ricordava. I giochi silenziosi è una puntata dove sentiremo puntata solo la voce di esatto. Link e di Gordon Freeman per 2 ore. Allora, a questo punto entriamo in quella che è praticamente la più grande delle tradizioni di ideologia videoludica, che è quella insomma che lo strazio che Biggio deve leggere, però gli abbiamo dato un nome. Mi piace tanto Imparati all'italiano, che è bellissimo perché noi ovviamente siamo i podcast adatti per essere imparati all'italiano e quindi affidiamo a Stefano Biggio, che è il nostro leggitore preferito che con la sua verve e il suo dialetto ispanico riuscirà a leggere questa frase, questo pensiero che è stato scritto e che è poi il riassunto di ciò che sta per essere discusso. Ma Marco, rubrica nuova, imparati all'italiano, jingle nuovo, quindi ascoltiamo il jingle e poi sentiamo Stefano. Vai, ricordiamo prima di far cominciare Stefano che questi jingle sono stati creati grazie alle donazioni che sono state fatte a IPN, quindi mi permetti salutiamo Enrico, perché proprio oggi è arrivata una super donazione da parte di Enrico. Anche gli altri ce ne sottiamo. Tanti altri ma che non c'hanno molto a che fare. Però Enrico lo salutiamo, dai. Sì, Andrea Milana, tantissimi hanno donato, Michele Schuren, insomma ci sono stati un periodo di grandi donazioni. Infatti, tutti. Oggi siamo riusciti anche a comprare un microfono per Stefano Paganini, che finalmente insomma anche lui sarà dotato e piano piano. Però non c'è, però lui sta da solo. Perché Stefano sta facendo la puntata da solo lui? Stefano Paganini sta facendo la puntata da solo. Ciao Simone, si imita tutti. Simone, Stefano dici. A me non fa sta avanti bene, logia davanti ludica. Esatto. Davanti ludica. No, ma perché io me lo sono dovuto pagare Stefano Paganini? No, scusa. Perché tu lavori anche con c'è l'uomo del vapore, quindi. Perché tu te lo sei comprato in tempi in cui ancora non erano arrivate le donazioni, ormai te l'hai ricomprato. Soprattutto non sei più italiano, che vuoi? E poi tu sei ricco. Rotto le palle da questi microfoni, io alla fine me lo sono comprato. Va bene, dai, poi te lo rimborseremo dopo che ha fatto. No, non voglio più niente. Non voglio più niente. Vabbè. Allora, imparati all'italiano, vai. Sì, allora, vediamo questa prova. Spero che il nuovo microfono mi aiuti a leggere meglio. Ma purtroppo penso di no. Comunque, senti come modula. Senti come condenso. Ecco. Iniziamo, quindi. Sì, è vero, forse per i super hardcore gamers i videogiochi sono un'altra cosa, ma noi siamo noi, e quel che vogliamo discutere oggi non è solo di un videogioco, ma di un'opera nel suo insieme. Anzi, forse di videogioco, di gameplay in senso stretto, non ne parleremo. Ma è di quel che The Last of Us ci ha lasciato come esperienza, come ennesimo passo verso una maturazione del concetto di narrativa applicato ai videogiochi. Insomma, che vi piaccia o no, che lo abbiate giocato o no, noi sviscereremo The Last of Us in modo quanto più approfondito possibile, spiegando cosa ci ha colpito, perché lo abbiamo amato, cosa ci ha lasciato interdetti, perplessi, turbati. Pertanto, se non l'avete ancora giocato, se non volete sapere nulla o non volete incappare in spoiler, cercate di passare oltre senza curarvi di noi, che qui, oggi, si fa sul serio. Bravo, bravo. Grazie, grazie. Bravo, grazie, bravo, grazie. Partiamo, partiamo da Giuseppe. Giuseppe, vai con la, la votation. Ma io dico che questo, che evidentemente ha studiato il quindi è promosso per settembre. 9-9, dai. 9-9-9, ma il microfono. 9 come il voto di Last of Us. Giusto, forte. Giusto, giusto. Che vai, secondo me da quando gli è arrivato il microfono lui sta lì a fare le prove, capito? Ma mi è arrivato stamattina. Cioè, stamattina che stai a fare le prove. No, sono trovato a casa alle 9. Insomma, era il caso che, cioè, magari le prove le facevo. Comunque, bravo, ti do un 9 anche io, perché sennò non puoi che andare a migliorare, insomma. Quindi, giustamente, dalla prossima puntata. Andare a passo corese. So cazzi tuoi. Dalla prossima puntata ci saranno degli errori messi a casaccio per vedere se stai attento. Mi dovrò attento. Correggere. Però stavolta vedi, c'è infatti il commento sulla scaletta. Dice, Stefano, almeno stavolta dagli una controllata. Dai, tra l'altro l'ho fatto io. Ho dato un'occhiata prima. Ho dato una corretta perché c'erano degli strati. Perché lui non l'ha fatto sicuro. Ma non è vero. Io ho aggiunto virgola e poi mi sono dimenticato di togliere un punto. Ma vabbè, niente. Vabbè. Comunque. Luigi. Sì. Il voto impeccabile, mi associo anch'io al voto, al vostro voto, e forse deve un po' eliminare, forse una mia impressione, c'è un richiamo a qualcosa, un accento sardo tipo, sì, quella cosa lì. Però per il c'è resto, una vaga eco, sì, sì, una vaga eco. Colpa del cantone in cui risiede, che è il canton sardo, sì, è un cantone staccato dagli altri, però indubbiamente circondato dal lago. Bravo, bravo, il famoso bravo. Canton sardo. Grazie, grazie. Simone. Io direi che è il Citizen Kane dei lettori, Stefano Biggio, è come è stato definito un po' Last of Us, quindi mi richiamerei a quello e più di... dai, 9 e mezzo. Oh, Simone, ma Simone mi vuole bene, vabbè, il cuore vuole all'inizio, anche se tu mi tratti male, mi blocchi su Skype, ma io ti voglio bene lo stesso. Perché voi fate a gara chi è più indie shelter di quell'altro, insomma. No, ma non è vero. È solo Simone cognome che è indie shelter. Io non c'entro niente. Perché tu e le cose sono in lingua originale. Lui oramai, se un gioco è costato più di 2,50€, è mainstream, quindi non c'è gioco. Ma che stai di pensa che mi voglio andare a comprare GTA 5 Day One? Le donazioni di PN, però. Sì, sicuramente, guarda. Scusa, mi regalate GTA 5 però in tedesco, cioè proprio da stronzi, in modo che io non capisca. Però i sottotitoli te li mettiamo in sardo, dai. Tanto ti devo sparare. Quindi stampadello, tutti stampadello. Va bene, allora, ragazzi, cerchiamo, insomma, perché insomma ci tengo a questa puntata, l'ho voluta io, perché riflettendo diverse volte, parlando con Marco visto che l'abbiamo giocato insieme, parlando con Giuseppe visto e considerato che poi è capitato, insomma, di aver approfondito un po' magari la nostra esperienza, roba del genere, questo gioco di Naughty Dog dopo i 3 Uncharted, insomma, ci tirano fuori questo gioco che è tra il realistico e il possibilistico, anche se c'ha degli aspetti ovviamente fantascientifici, futuristici, fantascientifici. Soprattutto mistici, sì, che però insomma lavora molto sulla narrativa, anche se è una narrativa molto lineare, molto blockbuster per certi versi, che però insomma lavora molto sull'emotività, sull'esperienza e anche il modo in cui, cioè, nonostante non c'è una reale interattività, quindi non c'è una reale possibilità di scelta, quello che è quello che ti lascia dentro come tipo di esperienza o come tipo di sensazione o di reazione, compreso il finale, che insomma fa la differenza di un gioco come questo, che io personalmente, poi ovviamente ognuno fa come gli pare, ho definito secondo me il più bel gioco di questa generazione, ed è venuto non a caso proprio nei colpi finali. Allora, facciamo prima un giro velocissimo, poi dopo iniziamo, lasciamo a Stefano condurre i vari punti, insomma, della discussione. Perché noi l'abbiamo giocato, abbiamo detto che volevamo fare questa puntata, poi alcuni di voi l'hanno giocato molto più di recente, quindi penso che la cosa sia più viva. Simone, la sensazione Io... di... non... allora, vai. Allora, io riporto, per iniziare, riporto quello che ho detto in altri lidi. E cioè che non, questo gioco non si, cioè l'opera in totale, insomma, The Last of Us non può essere considerato un punto di partenza, ma deve essere considerato un punto d'arrivo. Cioè io dicevo che, come fu per i film Matrix ai tempi, adesso non mi verrebbe mi viene in mente un altro di tipo di operazione simile, però insomma è quel momento, questi prodotti fotografano tutti un momento. Così, no, vabbè, per voi dico. È un punto di arrivo. Ti ho passato quindi in questi anni abbiamo avuto, anche nelle serie TV, oltre che nei videogiochi, che in quasi tutti i media, questo questo tipo di setting, no? Dove c'è la lotta per la sopravvivenza, e ci sono questa, c'è questa reinterpretazione dei zombie che non è più quella romeriana, ma è una interpretazione quasi vabbè, ormai ecologista, al limite, quasi. No, secondo me è più xenofoba o legata più al diverso in quanto straniero o al diverso in quanto malato, perché comunque sono 12 anni che stiamo abbiamo la spada di Damocle del terrorismo, degli attacchi terroristici, della viaria, dei virus, insomma c'è una reinterpretazione a degli archetipi che ci stanno nelle, in queste opere, nell'horror e in opere di paura. Per cui io dico, facendola breve, questo è un punto d'arrivo, non è un punto d'inizio. Poi sicuramente da adesso in poi ci dovrà fare i conti chi si scontra con cioè chi si metterà a fare un'opera simile dovrà scontrarsi con The Last of Us. Però il potere di The Last of Us è stato quello di fotografare esattamente il momento e di rilevare tutto, ma non per merito solo suo, ma per merito proprio di una cosa collettiva. Non so se riesco a spiegarmi esattamente, però secondo me c'è questo, nel senso che dentro a questo gioco ci sta, io ci ho visto, a parte Tomb Raider, ma ci sta Red Dead Redemption, ci sta The Walking Dead, il gioco, quasi tutto quello, cioè la sintesi esatta di una generazione. E c'è molto Uncharted anche nelle animazioni, quindi sì, sintesi esatta, però magari rapportata con un piglio più realistico, perché in realtà lui non zompa, cioè non si arrampica come una scimmia, lui né lei, cioè nel senso, comunque lui riesce ad arrivare laddove potremmo arrivare noi, o comunque, ma un po' c'è quello, un po' c'è che non lo so, io ti ho detto anche questa cosa separata da serie, cioè parlare della sua base è come raccontare e sviscerare una scopata, per dirla proprio in francese. Quindi su Indie Shelter l'hai scritto, immagino. No, me la sono scritta nel mio diario personalissimo. Scrivilo su dietrologia videoludica, allora, che se riesco a mettere quattro parole insieme magari ne faccio una cosa bene. Però insomma è quello, nel senso ho sentito pure in altri podcast che se ne parla in determinate maniere perché lì c'è lo script per fare il salto, perché, e secondo me questo è svilire un po' l'opera. Però insomma non mi dilungo, perché sennò vabbè, infatti come diciamo pure nell'introduzione, sì, magari per l'hardcore gamer, no? Non è proprio, ma non ce ne frega, anche, cioè nel senso qui stiamo a parlare dell'opera in sé, no? Allora Luigi, no, che sei quello, anche tu quello più fresco, poi passiamo a Giuseppe. Sì. Scusate, che cosa, un'introduzione, diciamo, un'impressione iniziale, così prima di entrare. Un'impressione iniziale. Cioè tu hai giocato The Last of Us, l'hai finito, sì, hai spento e? Beh, la prima cosa, vabbè, è stata un sacco di considerazioni, però se devo dire qualcosa, un'opera adulta, un'opera matura, un'opera che non ha paura di non disegnare il passo, perché non penso che sia qualcosa dove dopo dietro Last of Us non si torna, non lo credo questo, e non è nemmeno una declinazione di un nuovo gameplay o di un nuovo modo di intendere il videogioco, è semplicemente, secondo me, una grande prova di coraggio di game designing, di sforzo tecnologico, di risorse impiantate in maniera sinergica all'interno, diciamo, di un gruppo di lavoro, e soprattutto una visione autoriale molto marcata, una bella scrittura, cioè la scrittura ti tiene incollato allo schermo senza delle iperboli, senza dei colpi di scena troppo, esatto, assurdi, e questo è sicuramente un motivo per dire ecco è un videogioco maturo, ma non il videogioco è maturato. Non lo dico questo, dico ecco un videogioco maturo dove si può distanziare da tante scritture invece molto più didascali che di parte, che servono soltanto per far andare avanti delle scene, delle azioni molto pretestuose, posticce, diciamo, appiccicate o prima o dopo, ma in maniera sempre molto contestuale. Qua invece è un'integrazione tra tutti gli elementi che rende adulta l'opera unica. C'è una bella sceneggiatura. Che poi zitti zitti, senza fare grossi proclami da questo punto di vista, sotto questo aspetto, ti tirano fuori una storia matura, come ha detto Luigi, intimista, profondamente intimista per certi versi, perché qui poi il discorso dell'apocalisse, del disastro, roba genere, è un background, no? Però ecco, The Last of Us è riuscito, Giuseppe, laddove tutti gli altri che hanno proclamato sempre questa cosa della maturità, della narrativa, roba già, hanno fallito. Sì, allora io sono d'accordo infatti sia con quanto ha detto Simone che anche quello, il pensiero di Luigi. Ed effettivamente Last of Us rappresenta un checkpoint, per usare un altro termine, verso la tappa, la meta finale, che appunto mira a valorizzare il videogioco in quanto opera matura e quant'altro. E certamente resta uno dei migliori, non il migliore secondo me, ma tanto poi ne avremo modo di parlare, uno dei migliori giochi di questa settima generazione ormai al calare. E soprattutto, insomma, è sì, un viaggio che comunque è emozionale, che alla fine ti fa rimanere, ti lascia dentro indubbiamente qualcosa. E riesce anche, insomma, a farti maturare. Quindi sì, Naughty Dog è stata abbastanza brava. Sì, qualcuno potrà dire che si è limitata fondamentalmente a fare il compitino, però l'ha fatto decisamente bene, secondo me. Marco? Io sono sicuro, faccio una sintesi un po' di tutti, perché in effetti è un Last of Us è un gioco semplice, ma semplice non nel senso che è un gioco casual da bimbo minchia, è un gioco che con poche cose... Cominciamo a dire pure che non è... Facciamo questa distinzione, poi io te la faccio io, Simone, pensa, e Marco, vi interrompo, scusate, che non esistono giochi casual, diciamo, cominciamo a parlare magari... di giochi in sé, magari senza dividere troppo. Io su sta cosa sono assolutamente d'accordo, ma visto e considerato che ci stanno, te lo dico io che sono mainstream, che sono indie, no, giusto? Anzi apprezzo che tu dici una cosa del genere. Io purtroppo spesso e volentieri ci troviamo a fare questa distinzione, perché sono gli arcoroni che ci tengono tanto, insomma, a fare queste distinzioni. In realtà per me, cioè, della sto fase è un'opera a prescindere, no? Quindi, vabbè, comunque, Marco. No, dicevo che è un... Grazie, Simone, semplice. Tanto della... No, dico che... Scusa, se ho interrotto Marco. Sì, ho avuto un po' di parlacce. Tiatele per te queste cose, brutto stronzo. Siamo partiti troppo edulcorati con sta stagione. Mass Effect! Mass Effect. Ecco qua. Questa è una cosa che dobbiamo dire dopo, da contratto, sai, quando c'è lì... C'è il maggiore afflusso di diciamo che The Last of Us gli dà fuoco ai capelli a Mass Effect. Ah, sì, beh, certo. Purtroppo è così. Anche perché Mass Effect sono tre capitoli. Questo è uno, quindi possiamo dire che, insomma, anche se l'impatto che fece Mass Effect sulla 360 ai tempi ancora non mi ha... Io l'ho giocato anche più tardi, ancora non ho trovato un gioco che me l'ha fatto. Quando parli e c'hanno anche il labiale italiano, vabbè, ma perché qui lì era anche una... No, ma cioè, nessuno... cioè, noi ci abbiamo fatto una puntata su... Anzi, due. No, io... Quindi diciamo così, che prendiamo i soldi anche da Bayer. Esatto. Sì, ecco, sì, ma questo sì, ormai è chiaro, è conclamato. Che stavo dicendo? Avete capito che ho detto che è una cosa semplice? Sì, abbiamo capito, sì. Ma non nel senso semplice che è una cosa che può giocare anche un bambino di 2 anni, che forse potrebbe anche essere vero, ma perché con poche cose riesce praticamente a fare ciò che molti giochi con 300 pulsanti, combinazioni, super combo. Script, super combo e cazzi imperi riescono. Quindi è una cosa molto... Cioè, come diceva Giuseppe, hanno fatto il compito fatto bene. Poche cose, ma sviluppate proprio all'ennesima potenza. Ed è tipo alla fine che è quello che chiediamo da esatto perché dove non arriva magari il gameplay, arriva magari la sceneggiatura. Magari qui non c'è un gameplay complicatissimo, però la sceneggiatura permette di sopperire. Sì, però c'è pure questa cosa che tante volte in realtà non è complicato, ma perché è naturale, cioè nel senso, esatto, tu in realtà ti trovi lì a fare cose che se tu fossi lì non ti metti a tirare il boomerang, non fai rimbalzare le cose. Ha un gameplay, certo, che lavora in maniera sinergica con la narrazione. Bravo, sì, questo è vero, questo è vero. Immagino che avranno fatto un lavoro di sottrazione pazzesco. Mm-hmm. Secondo me la sceneggiatura era forse il doppio. Ma c'era anche un cane una volta. C'era un cane, sì. Secondo me hanno tagliato tanto e l'hanno reso veramente snello. Così come si lavora che spesso e volentieri non tagliare non è detto neanche che sia un male. Però tante volte si taglia anche per un fattore economico, no? Nel senso, ok, ragazzi, finanziariamente siamo oltre il budget, dobbiamo tagliare delle cose. A volte invece è una scelta autorale, cioè nel senso, ok, ma questa scelta ci sta? Secondo me c'è un problema, c'è un fattore in questo. Quando tu, come dici tu, vai a sommare invece che andare in sottrazione, andando a sommare tu non solo sommi le possibilità, cioè nel senso non solo sommi, aggiungi qualcosa alla trama, alla storia, a quel pezzo, ma aggiungi possibilità e quindi aggiungi l'opportunità, dai l'opportunità a qualcuno di attaccarti, perché lì poteva fare, avrebbe potuto dire. Invece se io la do asciutta, secca, così come nel caso della Last of Us, non c'è neanche possibilità di manovra per qualcuno che ti vuole insultare su quello, no? Mm-hmm. E invece Stefano Biggio l'ha giocato in lingua originale. No, non l'ha proprio giocato. Non l'ho proprio giocato perché non ho una PS3 e quindi ho una 360, come tutti voi sapete. E quindi, vabbè, ma tu te la sei arrubata, è vero, da qualcuno, sì, mi pare. Sì, Simone, però, genitore, però vedi, Simone, sì, ha trovato una soluzione. Sì, ma io tutto, anche volendola rubare al mio genitore, ha trovato una soluzione. Il crimine a volte poi, una soluzione. Cioè, trovandoci di fronte al miglior gioco, come dice Giuseppe, a uno dei migliori giochi di questa generazione, c'è il rischio del rimpianto, no? Nel senso, è un'esperienza che ecco, la domanda è questa: senti di averla persa l'esperienza oppure non te ne può fregare di meno? No, nel senso, scusa Stefano, ma non ti senti come quello che c'è un gruppo di amici che si fanno tutti una figura da paura tranne te, che sei brutto e gobbo? Allora, no, io mi sento come uno che cerca di parlare e voi ogni volta lo interrompete. Vedi, sentite, quindi per favore, allora, perché lui ha il microfono nuovo, c'è la polemica, microfono nuovo, adesso c'è già la polemica. A me non sta bene che esatto, mo c'avamo la puntata su sta cosa. Comunque, però con le donazioni potevamo comprare la mia PlayStation 3, scusa. Sì, infatti, invece che spendere peccato soldi, che non ci siamo arrivati al piccolo Stefano Paganini, prendevate la PlayStation 3 usata e che microfono gli ha comprato? Sì. Beh, e gli prendevate un microfono di quelli da 5 euro dal Media World, quelli della Trust, no? Ma ne ha, sì, esatto, quelli... che se leggi bene c'è scritto con fruscio incorporato, irrevocibile. Poi no, esatto, che si sente di merda, però tipo tutti gratti, non lo so, gratti il mobile dall'altra parte della stanza senza motivo preciso e si sente quello, so anche questo che ho pagato anche un po', però vabbè. No, comunque quello che c'hai tu, Simone, quello che c'hai tu abbiamo comprato. Ah, il Gomic, sì, della Samsung. Vabbè, dai, okay. Stefano, scusa. Comunque, no, allora, io ho visto l'episodio, vabbè, mi ero documentato un po' anche prima per curiosità, perché leggendo commenti eccetera sul gioco, chiaramente ha creato un hype e un interesse attorno a questo titolo molto elevato. Sapevo di non poterlo giocare, quindi per motivi di sicurezza, diciamo, ho evitato anche di, sino a quando ho scoperto che il primo episodio sarebbe stato su questo, di occuparmene direttamente. Tra vedere e non vedere, però comunque mi sono visto un po' di recensioni, walkthrough, spoiler, eccetera eccetera, ed effettivamente è un gioco a cui avrei voluto giocare, ma in potenza, diciamo, nel senso, si narra di un probabile seguito su PS4. Io non ne ho sentito parlare, ma Ma da IGN avevo visto una trasmissione su IGN e dicevano che era probabile che facessero un seguito, ma per adesso era ancora un rumor. Realistico, cioè nel senso, sì, per come finisce? Per come finisce? No, ma non lo so, di fare una cosa dopo il, come far vedere cosa succedeva dopo la fine o comunque non lo so, insomma, qualcosa se la sarebbero inventata. Quindi ho pensato che magari, avendo intenzione di prendere comunque una PS4 appena possibile, non mi sarebbe dispiaciuto ovviamente giocare al primo capitolo magari della serie, ovviamente per non iniziare dal secondo. Intanto non è retrocompatibile. Però non è, vabbè, quello non è detto, metti che con la cosa del Gaikai streaming, sì, eccetera eccetera, chissà che non tirino fuori qualche sì. Quindi ho detto vabbè, magari potrò giocarci più in là in maniera... Oppure nel peggiore dei casi te la rifilano tra qualche anno come HD Collection, no? Sì, esatto, magari c'è quella possibilità. Quindi in realtà, come dire, è uno di quei giochi che se in futuro avrò la possibilità ci giocherò. Anche, ma per adesso non sento un'estrema mancanza, anche perché, come dire, sono impossibilitato anche volendo dal giocarci, a meno che non... non lo so, volendomi ci impegnare un po' potrei comprare il gioco e farmi prestare la PS3 da un collega, eccetera eccetera. No, guarda, giocaci subito, perché poi i giochi invecchiano male, eh? Appunto, non quella tutti la cosa. Invecchiano male, lo so, però non tutti invecchiano male. Ma se metti che mi prendo la PS4, inizio a giocare i titoli PS4, dopo un anno magari ho la possibilità di giocare a quello, magari non lo so, ha perso quella bellezza o non lo so, ma anche visivamente, però, comunque è il meglio del meglio di quello che veramente sono riuscito a spremere. Quello penso anche io, ecco, da quello che ho visto è un gioco che comunque graficamente, dalle piste e le pizze anche a tanti altri giochi, ma anche a Uncharted stesso, cioè, sì no, ma ai loro stessi giochi, ma anche a tanti altri giochi, e lì secondo me sono riusciti a sfruttare bene le potenzialità della PlayStation 3, che secondo me rimane purtroppo una console poco sfruttata dal punto di vista, detto con 5T tra l'altro, sfruttata, che rimane, appunto, rimane un po', come dire, non hanno sfruttato il potenziale a pieno. Secondo me in questo caso qui invece forse sono riusciti a spingerla davvero al limite, con in cambio, io ricordo che comunque come gioco era stato annunciato da tantissimo tempo, c'erano stati ritardi, rimandi e cose varie. E non so, insomma, magari anche questo un po', diciamo, aiutato ad avere uno sviluppo più lungo, quindi magari in questo caso uno sviluppo più preciso. Anche come storia sembra interessante, perché da quanto ho visto non è il solito gioco di zombie, vai, scappi, ma ha delle particolarità come gioco, ma quelle poi magari vediamo, le vediamo più in là, ecco. È bello come... che sta parlando di Last of Us su una monografia, uno che non l'ha giocato per niente. Infatti, ma poi la cosa più affascinante è che adesso lui leggerà e condurrà i punti della discussione sorbendosi praticamente lo spoiler più infinito. Ma tanto lui spera sempre la TBC mentale, magari spera di dimenticarlo. Sì. No, no, ma io so già come finisce, quindi non so. Cioè, io chiaramente. Il bello è quello, diciamo, per l'amico Bruno. È il gioco dove la bambina non muore alla fine, ma muore. Ma Bruno l'ha giocato. Se parli del mio Bruno, se parli del mio Bruno, ci ha giocato. Sì, sì, vabbè, giocato. Ma io lo spoiler uguale, perché lui tanto ci rimane male comunque. Quindi... Okay. Beh, vabbè, magari non muore la bambina, ma muore la ragazzina, la bambona. Muore pure la bambina comunque. Ma vabbè, comunque io sì, direi di iniziare. Vai. Quindi a discutere quindi del primo punto. Quindi qui possiamo dire, appunto, che The Last of Us racchiude la somma di tutte le esperienze videoludiche. È allo stato attuale il miglior gioco di questa generazione di console, tra Xbox 360, Wii portatili, non portatili, ma anche di Wii U. Ecco, anche Wii U. Boh, non lo so, adesso non so bene dove mettere Wii U. Io penso che se tu prendi 15 Wii U in rete e non riescono a elaborare tanta potenza per poterlo far girare sto gioco. Io questo gioco al massacro non ci sto. A me non mi sta bene, poi che poi una citazione, ma cacchio. Comunque non verrò mai. Quindi io direi il piccolo Simone Pizzi. No, io invece volevo iniziare da Giuseppe, meglio? Perché io ho piazzato il microfono. Perché volevi iniziare da Giuseppe? Ah, perché gli hai piazzato il microfono. Cominciamo bene. Da dove gliel'hai piazzato questo microfono? Sotto mentre Marco lo abbraccia, poi. A tradimento. Mentre Marco lo abbraccia. L'omosessuale contemplativo, esatto. Sì. Comunque. Tipo, no, scusate, andate a vedere se riuscite, tanto sono pochi minuti, vedete il nuovo, il porno della Tommasi con Paolini. No, cioè, beh, dai, adesso non c'è tempo di questa cosa. Su. Io questo gioco non c'è sto. Non c'è sto. No, Paolini, no, non fa niente. Paolini accarezza i capelli, non vi dico altro. Basta, scusa. Va bene, Giuseppe. Comunque. Giuseppe, allora, okay. Visto che Pizzi non vuole. Allora, io l'ho già detto e lo ripeto nuovamente. Non è il miglior gioco in assoluto di questa generazione, però devo dire che effettivamente è uno dei migliori giochi per PS3. Te ne accorgi chiaramente uno giocandolo e ancora prima quando lo avvii, perché senti proprio sfregare il lettore del Blu-ray della PlayStation 3 nella lunga fase di caricamento che anticipa il momento del gioco, che poi grazie alla prima patch, che in realtà era un sistema di raffreddamento, sì, della PlayStation, è stato accelerato. Devo dire sì, che comunque i concetti gli elementi, le meccaniche di gameplay di Last of Us sono fondamentalmente, l'abbiamo anche detto nell'incipit, abbastanza ridotti, insomma, è fondamentalmente una via di mezzo tra un gioco di stealth che a me per esempio ha ricordato il primo Manhunt, con alcune fasi anche da sparamuretto, ora ci vuole, tanto per citare un altro gioco della Naughty Dog, Uncharted, perché comunque una volta che la situazione, cioè una volta che vieni comunque scoperto, quindi lo stealth, l'approccio stealth a un certo punto ha fallito, sei comunque costretto a risolvere, insomma, la situazione con qualche scontro a fuoco, e oltretutto il gioco in alcune situazioni comunque ti mette davanti delle difficoltà tali che comunque puoi risolvere unicamente in questa maniera, e con poi insomma una parte, ovviamente, di una larga parte di esplorazione, perché a differenza appunto anche di qualunque altro TPS non abbiamo qua ambienti molto stretti, quindi corridoi fondamentalmente, ma delle grosse aree da esplorare, e visto che comunque rimane appunto come ultimo componente un survival, dobbiamo comunque cercare appunto di racimolare in giro quanti più oggetti che poi ci serviranno appunto per creare fondamentalmente armi e medikit. Quindi insomma, queste tre anime, se così possiamo vederle, queste tre nature di ludiche di Last of Us, secondo me comunque si amalgano abbastanza bene, e quello che appunto ne viene fuori è un gioco che comunque ti permette in massima libertà di decidere praticamente quasi ogni approccio, e ti mette anche a volte anche proprio in alcune situazioni dove davvero tu dici oddio che faccio, specialmente se poi lo giocate, secondo me, che è come alla fine andrebbe veramente giocato, cioè non abusando troppo della modalità fondamentalmente ascolto, che è questa modalità che fondamentalmente ti permette di visualizzare i nemici anche attraverso pareti o anche il tuo riparo che si stanno appunto muovendo attorno a te. E appunto se uno non ne abusa troppo, addirittura gioca all'ultimo livello di difficoltà che l'ha disabilita completamente, allora veramente hai tensione e cerchi di centellinare ogni minimo passo, perché sai che se va storto qualcosa sei fregato fondamentalmente. Quindi insomma, questo effettivamente è una sensazione che pochi giochi di quest'ultima generazione hanno saputo davvero fornirmi. Okay. Simone? E allora io mi rileggo, però, perché nel frattempo mi sono perso la domanda. Perché nel frattempo voi siete abituati a farvi i cazzi vostri. Allora, possiamo dire che True racchiude la somma di tutte le esperienze videoludiche. E allora possiamo dire che racchiude la somma delle esperienze videoludiche. Beh, è quello che hai detto tu all'inizio, però. Sì, esatto. Diciamo, sì. Però io. Cioè, se per esperienze videoludiche citiamo. Cioè, tu vuoi rimandare a altri giochi dove c'è un impatto di trama, un impatto di. Sì. Cioè, l'atmosfera, ok. Se parliamo di gameplay, ovviamente no. Nel senso che non ci potrà mai essere una cosa del genere. E che sia il migliore gioco di questa generazione, non, no. Non sono d'accordo, perché già partendo dal presupposto il migliore, già fai un assolutismo che è troppo. Taglia fuori troppa roba e troppe cose e troppi. Vabbè, quella è un punto di vista estremamente soggettivo. Come ti dicono, certo, qual è il disco, certo, che ti piace di più? O qual è la band che ti piace? A te ti ascolti Daft Punk, a te ti piacciono e pensi che siano migliori di tanto altro, no? Quindi. Ma sì, però io ti posso. Cioè, è ovvio che su questo sono d'accordo con te. Non lo annoveri neanche tra i 10 migliori della PS3. Ma della storia, non della generazione, capisci? Cioè, deve essere una di quelle cose che devi del ciclo vitale della PS3. Assolutamente. Però io ho sempre, tra virgolette, la paura che parlando in termini solo sensazionalistici, puoi capire, mi sono toccato. Cioè, esagerare in questo mi sembra che poi uno si perde il punto di vista. Perché? Perché, come dicevo, è la fotografia di un qualcosa che prima o dopo, in una maniera o nell'altra, anche qualcun altro avrebbe potuto raggiungere, oppure l'ha raggiunto in altro. Cioè, per questo io dico: non direi che è il miglior gioco di questa generazione. Sicuramente, tra i miei. Infatti, non è che bisogna dirlo. In termini assolutistici, io dico. Certo. Per me, per tutta una serie di insiemi, dei fattori, certo, allo stato attuale, sia narrativamente che graficamente, e da un certo punto di vista, anche per quanto riguarda il connubio di meccanica con linearità e fluidità della storia, per me rimane l'esempio più grande di quello che può allo stato attuale fare questo tipo di medium, cioè a livello di esperienza narrativa. Poi è chiaro che se mi esce Super Pac-Man 3D col cazzo intercooler, cioè quello è un videogioco diverso che non può essere minimamente neanche accostato a questo tipo di esperienza qua. Però nell'ambito di quello che sono i giochi che oggi escono contestualmente a un certo tipo di produzioni e roba del genere, secondo me lui, cioè The Last of Us, rimane forse il migliore esempio. Lo sarebbe probabilmente stato anche The Walking Dead se fosse stato tecnicamente all'altezza. È questo il problema. Forse ci vuole anche il bilanciamento da hipster. È proprio quello il fatto. Se andiamo avanti, perché la grafica, perché non. Ho capito, ma se tu. Non tu ci può essere solo. Questo ideologico fastidio verso tutto ciò che è mainstream non è colpa mia, cioè. No, non è un fatto ideologico fastidio. È che tagliare. È ovvio che io sono il primo che ti dico che il gioco fa cagare, quello è brutto. Questo, sono il primo che te lo dice parlando così. Poi, se andiamo a cercare di essere. Cercando di levarci un po', magari, a livello sempre di cazzate, perché stiamo a parlare di videogiochi, insomma. Però. Cioè, The Walking Dead è stato veramente un'innovazione per altre cose e graficamente, per quello che serviva, è all'altezza. È ovvio che stiamo parlando di altro hardware, di altra concezione, proprio di un'altra storia, di un'altra. Ma io qua potrei contestare in 150. Ma no, ma io non voglio, infatti non ti voglio rispondere su quello, ripeto, come dicevi, per me The Walking Dead è stato un bel esperimento narrativo estremamente maturo, quasi all'altezza della Last of Us, ma certo non è stata un'innovazione. Cioè, è stato tutto tranne che un'innovazione. E invece ad oggi hanno scoperto una meccanica che alla fine David Cage porta avanti da 10 anni, cioè nel senso né più né meno. Ma no, perché non fai dialoghi con Cage, non ha mai fatto dialoghi completi. Ci hai aggiunto Mass Effect a David Cage, dai. Ma è quello il bello, nel senso, quando tu ridi, il bello per esempio di quando tu mi hai citato i Daft Punk non fanno nient'altro, adesso diverso un nuovo disco, ma non fanno nient'altro che prendere usare una metodologia di lavoro che non crea ma va a pescare dal vecchio, perché si usano i vari campioni, sample e tutto, in modo rielaborato e in modo di insomma, di riscoprire delle cose che per problemi anagrafici, problemi di conoscenza, insomma tanta gente non avrebbe conosciuto. Invece c'è un motivo anche storico, e questo è uguale, che deve succedere, e per fortuna succede nel mondo indie, e adesso sta succedendo anche nel mondo mainstream, in cui si influenzano tra di loro vari giochi e varie tipologie di giochi, quindi proprio cose che non c'entrano niente tra di loro, però cominciano a mischiarsi e a creare fuori roba ancora migliore, quindi questo è buono. Però vabbè, insomma, torniamo, è talmente soggettivo che ti dico no, è sicuramente tra i primi tre, ma non mi sento di parlare in questi termini per quello riguarda il miglior gioco. Per quello riguarda la somma di tutte le esperienze videoludiche, io dico che su questo si evolve un po' di più il discorso, perché secondo me non è uno stealth come dicono tante persone, cioè può essere interpretato, io non lo saprei dire, un action in terza persona, non lo so. Vabbè, però la componente la stealth comunque è presente, non è obbligatorio, esatto, ma bravo, però non, cioè, quello che dicevo, fare sti tagli chirurgici è svilente, perché in tutti i giochi stealth mi pare, poi noi c'eravamo tutti quando sono nati ufficialmente, diciamo, con Metal Gear si può dire, poi ci sarà, no, ci sarà quello prima, ci sarà, non lo so, però diciamo il genere è stato un po' inglobato da quello, e se ti scoprono il gioco è rotto, cioè il gioco stealth funziona se non ti fai trovare, se ti fai trovare hai rotto il gioco, non per fare citazioni da altri podcast però quando vieni scoperto il Last of Us, differentemente da altri giochi con meccaniche stealth, se si rompe solitamente per causa tua, non per colpa di un game design, insomma. E invece abbastanza... secondo me è un'altra cosa, secondo me il game design non è nato per quel game design non è necessariamente stato concepito così per valorizzare l'approccio stealth, ma semplicemente deve reagire a quello che fa il giocatore. Quindi se ovviamente in maniera stealth tu riesci a fare più cose, a perdere meno energia e andare in una certa maniera, ma se tu ti alzi o ti scoprono per un qualsiasi tipo di problema, anche il fatto che sei stato, cioè è stata la responsabilità tua, recuperi la situazione, riesci a recuperare la situazione, quindi è perfetto, questo secondo me sì, però non... cioè, anzi è un plus valore, perché ovviamente significa che tu in ogni caso cioè il gioco funziona tanto bene da un lato quanto dall'altro, no? Ma è quello che stavo dicendo, cioè, altrimenti sarebbe la simulazione di realtà e moriresti dopo 5 secondi, perché chiunque al posto del Joel sarebbe cosa morto dopo 5 secondi. Bravo, altra cosa che non va detta, secondo me è inutile dire perché non è realistico, ma che cazzo è realistico? Cioè, dimmi cosa c'è di realistico, cioè goditelo, vedi che cos'è, vedi se c'è una reazione che tu avresti avuto. È molto più realistico di tante altre cose, perché lui per raggiungere determinati posti c'è bisogno della scala, mentre Nathan Drake no, cioè vabbè, ma Nathan Drake è Crash umano, cioè Crash Bandicoot, se lo guardate sì, bene vabbè, è esattamente, cioè è proprio quello. No, teniamo comunque in considerazione Nathan Drake è anche penso insomma chiamato al tribunale dell'AIA per crimini contro l'umanità, perché sì, tra l'altro penso contro i negri perché poi ha sterminato praticamente più gente lui che sì, l'Africa del Nord non c'è più dopo. Vabbè, comunque Marco e poi Luigi. Secondo me, come un po' come dice Simone, non è il gioco più bello, il miglior gioco di questa generazione, però sicuramente prende una medaglia, perché vabbè, tra i vari giochi possiamo pure ricordare Fallout 3, Mass Effect, Mass Effect, sì, sì. Ce ne sono di bei giochi. Diciamo che questo qui sicuramente ecco, forse riesce... forse Fallout s'abbatte, sì. Perché lì lo so pure i gusti, per carità. Però diciamo che sicuramente come concezione di gioco è sicuramente uno di quei giochi che ricorderemo. Non ci scordiamo dopo. No. Dopo 10 giochi ti ricordi? Se l'hai vissuto come un'esperienza, se l'hai giocato come un videogioco, probabilmente dopo 2 giorni te lo sei scordato. Beh, ma diciamo che è uno di quei giochi che lo giochi come con l'esperienza. È difficile giocarlo così a cazzarella, perché quello c'è il multiplayer. per giocare a questo. Che tra l'altro, insomma, moriamo sempre noi. Lo scopo lì è morire punti, ripetutamente. Morire nei modi più violenti possibili e brutali. Anche se io ho ucciso una persona con una molotov in faccia, ricordiamocelo, quindi. E con soddisfazione. Con soddisfazione. Stavo morendo, gli ho tirato la molotov addosso perché dovrai morire anche tu. Certo. Infatti, io muoio, ma ti porto ti con porto me. All'inferno. Muoia canzone con tutti. Quindi sicuramente è uno dei giochi che ci rimarrà più impresso. Poi ognuno c'era il suo miglior gioco, anche The Walking Dead, cioè, insomma, comunque in questa generazione ci ha dato delle belle chicche in un mare di a fine generazione, lo sai perché? Perché è durata di più. Io sono convinto di questa cosa. Sì, però se vai in caso, comunque a fine generazione, non nell'insieme. Appunto, perché è durata di più. A parte Fallout, appunto, che invece è proprio al centro quasi della generazione. Si sente, però. Però ci sono pareri discordanti su Fallout. Io non ho giocato, o meglio, l'ho giocato, ma non so. Ma i pareri discordanti, Simo, cioè, è giusto anche, voglio dire, è normale, penso che sia su qualsiasi altra cosa. C'è anche chi dice. Ho sentito pure di che The Last of Us è una merda, cioè, nel senso. Sì, no, stavo fine. Sì, no, dico che qualcuno ha valorizzato il più New Vegas a livello di impianto, insomma. Beh, come meccanica RPG forse sì, però beh, Fallout è stato il 3, è stato il primo di quel tipo, e a livello di immersività e di di immersione, problema, appunto, all'interno dell'universo. New Vegas è che è uscito dopo. Se fosse uscito prima, probabilmente New Vegas sarebbe stato quello. Lo so, però cioè io perché ero molto simili. Cioè, Marco lo salsa, c'era un periodo che pure io, che contavamo i tappi sulle tasche, io, cioè, non, senso, io non bevo l'acqua non bevo l'acqua per te, adesso invece bevo l'acqua del cesso, esatto, perché, so perché era radioattiva. Vabbè, detto questo, Luigi, due no categorici, cioè possiamo dire che tra sto paso è chiudere la summa e tre esperienze videoludiche, no, e che lo stato attuale è il miglior gioco di questa generazione, no. Mi sembra una domanda molto pretestuosa, ovviamente anche simpatica per fare dei paragoni, ma, non ma anche per fare polemica. Fare polemica, sì, ti sì. Piace tanto la gente. Se devo rispondere seriamente, dico no. Cioè, perché c'è anche la risposta non seria? Sì, no, nel senso potrei parlare, ma si rischia di scadere nelle discussioni da forum. Questo è più bello, questo è più lungo, aspetta. Bravo, bravo. Invece no, insomma, non è una domanda che richiede in questo frangente una risposta circostanziata. Non è non può essere la somma di tutte le esperienze videoludiche, non può essere un gioco, non può essere la somma di tutte le esperienze in genere, e il miglior gioco di questa generazione. No, vabbè, forse la domanda andrebbe un po' contestualizzata nell'ambito di quelle che sono le recenti meccaniche dei giochi, tra i giochi del ruolo action tipo che può essere un Mass Effect, Uncharted, Gears of War e via dicendo, insomma, più o meno se vai a vedere gli action adventure sono tutti più o meno della stessa impronta e insomma migliorano, aggiungono meccaniche in maniera molto timida spesso e volentieri. Diciamo che The Last of Us, e questo forse voleva intendere magari la domanda, a un certo punto prende l'insieme di tutta una serie di fattori che abbiamo visto nella generazione attuale e li sintetizza anche, come posso dire, forse semplificandoli per certi versi, però li assume insieme e li fonde in una maniera estremamente lineare, pulita, in modo che tutto poi sia estremamente scorrevole, fluido e non abbia intoppi o scattinetti o eccessive ripetitività. Perlomeno questo è un po' il senso che volevo dare io un po' a questa domanda. Sì, sul discorso del migliore è chiaro che io ho fatto la domanda su quella che è ovviamente la mia impostazione, cioè nel senso è la mia visione, che comunque secondo me dal punto di vista tecnico, videoludico e narrativo rimane comunque per me adesso come adesso comunque la più bella esperienza che io abbia fatto, no? Quindi ovviamente ho posto la domanda se per voi è così. Se per voi non è così, è chiaramente poi ognuno esprime la propria considerazione. Sì. E Luigi, sempre a te. Sì, sì, no, risposto, insomma, non, no, per me non è il miglior gioco di questa generazione. Interessante sviscerarlo, parlarne, vedere le dinamiche produttive e tutto il resto, però non è, sono altre cose anche che mi hanno divertito. Cioè, mi hanno proprio intrattenuto in maniera anche profonda o commosso o per altri versi, diciamo, irretito, mentre la somma delle esperienze videoludiche tu parli di semplificazione, ovviamente sì, è un gioco che riesce a sintetizzare bene quel lavoro che deve fare rispetto al contesto ambientale in cui si muove, quindi tutte le dinamiche sono riproposte in maniera molto funzionale, studiata, calibrata, bello, quindi ci puoi vedere i ripari di Gears of War, ci puoi vedere Menant, che è un bel tipo di paragone che ha fatto prima Peppe, ci puoi vedere lo stealth, ci sono tante cose assieme, ma che le racchiude tutte la summa di tutte le esperienze videoludiche di questo genere, non mi sento di poterla appoggiare questa sorta di affermazione. Quindi secondo te comunque non ha tratto esperienza dai giochi che l'hanno preso del predecessore? Sì, ha tratto esperienza, è derivativo da questo punto di vista, cavolo, chi non se ne accorgerebbe? Un videogiocatore scafato vede subito qual è, da dove deriva e da dove non, ma il pregio suo sta in un'altra cosa, cioè secondo me non tanto in come riesce a far la somma di queste cose, che ripeto è molto relativo come discorso, ma come le mette sul campo rispetto all'ambiente che sta attorno, questo sì, questo fa dire è vincente da questo punto di vista, ma non ci sono tanti pezzi che mancano, non ci vedo per esempio il free roaming, non so, prima che l'ha citato, di Red Dead Redemption, che comunque ha le sue coperture, la mira, il fuoco eccetera, non ci vedo quel tipo di feeling, non ci vedo una sorta di libertà, interattività con l'ambiente legato a questo tipo di dinamica di... Ma io Red Dead Redemption l'avevo nominato come atmosfera, ovviamente non sì, come gameplay, cioè non mi ero permesso, io pensavo per il cavallo, Simone. No, per il cavallo c'è la parte ne parlavamo l'altra sera del famoso volo nel burrone del Grand Canyon. No, ma anche diciamo dal punto di vista del cavallo non è neanche, cioè, no, ma c'è la parte molto nettamente superiore, anche perché questa parte di Last of Us, che mi pare si trova durante l'autunno, se non ricordo bene, comunque tu sei sempre in corridoi molto stretti, prosegui, no, ma infatti fa anche cagare, esatto. Cioè fa anche schifo, no, io dicevo per esempio comunque come il 70% dei giochi di questa generazione, nel senso che era una parte che secondo me avrebbero potuto, volendo, anche implementare semplicemente attraverso una cutscene col motore di gioco anziché... ma il cavallo serviva. Ma la cavalcata c'è stava, non mi sembra una cosa poi così drammatica, quindi. Ma anche Stefano, tu spari a due uffi, ma come abbiamo detto, suore di manare. Comunque, come abbiamo detto all'inizio, alla fine il gameplay è una parte estremamente relativa anche delle cose, dell'analisi che vogliamo fare un po' del gioco. E quindi Stefano, andiamo avanti. Se quindi tu... sì, direi decisamente di sì, e richiedo, quindi ritorno a Peppe, gli chiedo, secondo te come gioco rappresenta una maturazione complessiva è importante, notevole, per quanto riguarda i videogiochi in generale, cioè pensi che abbia che sia appunto che abbia non la summa nel senso il migliore significativo, no. Esatto. No, è un passo avanti indubbiamente, ma non è comunque una serie di tanti passi avanti, sì, è stato realizzato dannatamente bene, però non rappresenta l'anello superiore, l'anello successivo dell'evoluzione del videogioco, ecco. Io non, bene. Esatto. Simone, penso appunto che anche Simone e gli altri comunque la pensino. Sì, dai, da quanto ho sentito prima, sì, penso anche Simone io, comunque mi ha detto che è il punto d'arrivo, quindi io credo sì, io sono cioè, perché se tu lo vedi bene, se tu hai vissuto un po' in questi ultimi anni tra serie TV, appunto, dicevo, tra tutti i media che ci sono stati, e vedi tutto, vedi c'è un po' di tutto, e da una parte è bello proprio perché non lo so, a me piace quella commistione di media, la commistione in generale, prendere un pezzo da là, un pezzo da qua e costruire una cosa nuova, e anche perché comunque quindi, tutti questi pezzi sono retti bene, sono tenuti assieme bene, comunque non cadono, diciamo, no, diciamo no, non cadono, però diciamo che è una cosa, come si dice, un road movie, sì, insomma, sì. Anche lì stiamo parlando proprio del primo cinema, però è fatto bene, cioè quello che ti dà è fatto bene, quindi del primo cinema, del primo cinema, che cioè nel senso, in che senso il primo cinema? primo no, rispetto a il che? Primo io, rispetto alla storia del cinema, cioè il road movie non è che è una cosa recente, no, la no, concezione del road movie o il romanzo, ma se ne fanno ancora esatto. No, dico, ma anche in quello è molto ridotto all'osso, ma proprio perché ridotto all'osso riescono a dare credibilità e a dare anche un valore aggiunto, un valore aggiunto per ogni, cioè un valore per ogni, quasi per ogni, per ogni media, per ogni cosa che ne compone, per ogni componente, quindi la musica, quindi la regia, la fotografia, tutte queste varie cose qui ci possiamo fare, di cui possiamo parlare. Per quello che riguarda, io penso che più o meno abbiamo risposto prima su questo, nel senso che è indubbio che ci sia una maturazione proprio del media, ma ci sta una maturazione proprio anche dai Naughty Dog, cioè rispetto a Uncharted, che io adesso sto giocando il secondo e sto per iniziare poi il terzo, però tutto insieme non ce la posso fare. E si vede, io giocavo, li ho giocati in contemporanea, nel senso mentre giocavo Uncharted mi è arrivato The Last of Us, quindi li ho visti proprio uno accanto all'altro, e si nota assolutamente anche un'evoluzione proprio dei Naughty Dog, che sono diventati un po' bambini grandi da un certo punto di vista. Vabbè, anche la tipologia narrativa che è diversa, cioè uno è un action movie alla Indiana Jones e l'altro è però, un road insomma... movie, come dici te, alla The Road, cioè se vogliamo proprio, perché secondo me l'elemento speranza, che però. No, invece no, è proprio quello il discorso, perché comunque anche questa è una storia senza speranza alla fine. Vabbè, però è una storia, cioè nel senso non è, cioè, Simone per esempio ha fatto gli esempio di tanti serial televisivi magari più o meno analoghi, no? E noi abbiamo visto The Walking Dead, abbiamo visto, ecco, adesso proprio pure The Dom, se vogliamo, Revolution. In realtà poi alla fine nella narrativa tipica anglosassone, in realtà c'è sempre la figura cristologica, c'è sempre la speranza, c'è sempre tutta una serie di elementi che in realtà in questa storia, ovviamente in The Road in maniera estrema, no? Cioè estrema, perché lì veramente è la morte della morte della morte, quindi in realtà comunque c'è la possibilità di sopravvivenza, ma in realtà è un film che non ti racconta l'illusione della possibilità dell'eroe che a un certo punto comunque risolve tutto, ti racconta l'egoismo di una persona nei confronti di quello che è la sua vita, quindi di quello che lui vuole proteggere, di quello che lui vuole trattenere in questa vita. E questo è, secondo me, un esempio unico nei videogiochi. Cioè, è un esempio unico che fino adesso non abbiamo mai visto. Perché non c'è assolutamente nessun altro tipo di richiamo. Perlomeno dal mio punto di vista, chiaramente. Non lo so, io non li ho. Cioè, non mi sento così onnisciente. Per quello che ho giocato io, anche io sicuramente la penso come te, però secondo me ci sarà, guarda che questa cosa sì, sì, fatta, se qualcuno poi giustamente dice no, guarda, non è così perché c'è stato Shuzutsu 4 che ha trattato questi argomenti qua, Shinumerda io 5, dico pure anche sti cazzi, perché comunque io non ho mai sentito e evidentemente giocato. Ah, ok, mi sembra l'atteggiamento giusto. Esatto, perché poi fa cagare a pescino. Sì, esatto, che è bello che noi siamo qua, capito, un'ora, perché no? Perché no, poi mi ha fregato, non ci ho giocato. Esatto. Anzi, non mi sta manco bene, Marco. Sì. Beh, diciamo che questo, come dicevo, non è il gioco più bello magari di questa generazione, ma è uno dei migliori. Vabbè, abbiamo capito che non è che, però questo ci tendevo a dirlo. No, l'hai detto. L'ho già detto, ma ci vuole ribadirlo. No, diciamo che questo qui, ma maturazione non lo so, perché comunque già è a livello come storia, come intensità, ad altre storie che magari sono in circolazione. Una cosa buona di questo tipo? Gioco è tipo The Walking Dead, insomma, ma The Walking Dead te la lascia la speranza, c'è sempre l'altruismo, c'è sempre, capito, lui il sacrificio, invece no, qui si è sacrificato proprio nessuno, qui levate dal cazzo, io la ragazzina la voglio perché gli voglio bene, però, basta, no, cioè. invece lui poi ce l'ha fatta, ma fondamentalmente lui si sarebbe sacrificato. Poi va, lascia perdere che una storia. Sì, ma non per un fine superiore, ma un fine egoistico, puramente egoistico. ma per lui è superiore. E anche per te, che almeno per me pure ero completamente d'accordo Simone, con lui io, ma Simone, proprio... se permette narrativamente cambia rispetto allo standard. Cioè gli altri si sacrificavano perché comunque cioè, volevano che se quello si sacrifica per salvare l'universo. Scusate un attimo, perché non ne parliamo al punto dopo? Cioè nel senso, visto che c'è un punto proprio sui finali, giusto? Sto leggendo qua. Sì, infatti ci stiamo amaro. Sì, perché sennò mischiamo mezzo mondo. Vabbè, c'è ragione. In ogni caso, una cosa buona del gameplay è che una volta tanto, questo non è sempre equilibrato, il gameplay, cioè la parte proprio giocata, non ruba spazio alla narrativa e viceversa. Cioè non, ci troviamo come a, che ne so, l'ultimo Metal Gear. Esatto. Di 40 minuti di cutscene. Oddio, Kojima. Praticamente, sì, quello. Ha fatto un film con la parte giocata perché sennò mi rompe il cazzo. Sì. Però tra l'altro è un'altra questione. È notizia di ieri che sarà tutto un piano sequenza. Sì, ho letto pure io. Non si sa che cazzo vuol dire. Però poi, è il piano sequenza. E quindi, montaggio insomma, analogico. Rispetto a tanti giochi, riesce a diventare l'uno stempera l'altro. Quindi, quando stai lì, ti fai una sessione tutta in stealth con gli infetti che se vogliono inculare, e poi alla fine. Non ti si vanno proprio in culo, no? Dici? Ti si vanno mozzicare. Ah, vabbè, quella è una cosa un po' fetish. Insomma, vogliono. Poi dopo si divertente, però fa un survival game con quelli che ti si vanno in culo. Bello adesso. Potrebbe esserci, magari in Giappone l'hanno fatto. Sicuro. E quindi stempera la parte. Poi arriva la parte filmata che ti fa un po' recuperare e poi ti ributta nella mischia. E questo è, diciamo, è un gameplay generale che non ti rompe il cazzo, che è una cosa molto importante. Però cioè, io direi una cosa, visto che tanto ne parlano tutti la storia, facciamo un po' gli alternativi, cerchiamo, se vi va, focalizziamoci un po' su sto gameplay, sul motore del gioco, su come si muove, su no? Sì, prima dammo la punta. No, così. Vabbè, giusto Luigi per finire sto punto e poi possiamo. Certo, sì. Poi Stefano decide dove andiamo. Quindi. Allora, quando la domanda vedo la rappresenta se Last of Us rappresenta una maturazione complessiva importante. Faccio un distinguo, ovviamente, maturazione. Da vari punti di vista, sotto ho visto grafica, libertà di gameplay, realismo generale, narrativa e personaggi. Se devo dire dove secondo me rappresenta una maturazione complessiva importante, rientro nel discorso del coraggio di osare con una buona scrittura, e quindi la maturazione dal punto di vista proprio della sceneggiatura. Quello vi dico, per me è una maturazione importante perché riesce a dare un'idea di videogioco veramente più adulta e molto più, se vogliamo, discutibile da un punto di vista adulto. Presumo che molti ragazzi non abbiano colto, giocando Last of Us, molte delle sfumature psicologiche dei personaggi, e quindi invoglia, secondo me, anche a una rilettura di quello che accade a livello di scrittura, giocandolo una volta e interpretandolo assieme ad altre persone. Quindi questo, tutta la parte diciamo dello svolgimento della storia, e questo secondo me è una maturazione, perché ogni medium che porta a far discutere, a pensare, a ampliare un po' dei canali dove non si sospettava di poter andare a toccare a livelli di narrazione, in questo caso già è una maturazione secondo il mio punto di vista. Grafica sicuramente, rispetto al motore di Uncharted, ha dei miglioramenti notevoli, muovendo meno cose su schermo fondamentalmente, dal punto di vista dell'azione, quindi intercalandolo con delle fasi meno giocate, meno action, accade che si sono potuti soffermare su sorgenti di luce dinamica, sugli effetti su blur, su un sacco di espedienti che hanno tenuto il frame rate quasi sempre semicostante sui 30 fps, e si vede fondamentalmente, perché dalle sorgenti di luce dinamica alle ombre a tutto ciò che riguarda il parato estetico, Last of Us è una maturazione rispetto al motore di Naughty Dog sui Uncharted, quindi sui modelli precedenti dei loro sviluppi. Realismo generale, c'è una maturazione perché ovviamente c'è un'ottima comunicazione fra la parte giocata e la parte, diciamo, estetica, cosmetica, tutto ciò che sta attorno, il famoso decor detto in termini cinematografici. Funziona bene, c'è un realismo che sicuramente offre una coerenza fra questi due linguaggi che spinge in alto l'asticella della maturazione del linguaggio del videogioco. La narrativa è legata al discorso che ho appena fatto, quindi c'è questa coerenza narrativa e questo non può che dargli punti. I personaggi, il lavoro di scrittura è stato fatto soprattutto sulla determinazione delle espressioni facciali dei personaggi, la loro coerenza e risposta emotiva, sia all'ambiente di gioco sia al loro vissuto interiore, perché sono dei personaggi molto provati e si riesce a leggere una sofferenza che sta dentro questo tipo di vita e ambiente in cui si trovano a vivere, e questo sicuramente ti fa pensare sempre meno che tu stia di fronte a un videogioco, quindi un artefatto costruito artigianalmente, ma sei di fronte a un universo coerente che gli dà una sorta di dignità autoriale. Quindi tu, quando tu interfacci e dici muovo questo personaggio, gli faccio compiere queste azioni, non fai il deficiente, perché ti senti dentro il personaggio a interpretarlo in un modo molto coerente con quello che ti sta dando la storia. E questo sicuramente, anche se fai il deficiente, ti puniscono lì sì, subito. E questo sicuramente è un aspetto da tenere di conto, perché riescono a guidarci bene questi Naughty Dog dentro tutte gli sviluppi e le dinamiche della storia, anche grazie alla coerenza realistica dei personaggi, molto molto sentita. Stefano, a te. Bene, allora io direi di passare a pie pari quasi quasi direttamente al punto che riguarda uno dei due personaggi, diciamo, principali del gioco, quindi di Joel, anzi lo chiamerei in maniera un po' più per fare il diverso. Sì, esatto. No, Joel, che a quanto ho visto, mi è sembrato di vedere, è un personaggio abbastanza particolare, nel senso che manca un po' di quello che può essere definito un modo di fare in qualche modo che si possa mediare, nel senso che per lui o è tutto bianco o è tutto nero, mi sembra di aver capito, cioè ha i suoi problemi eccetera eccetera, ma lui è i muscoli del gioco, nonché il personaggio che alla fine si controlla dopo tutto, e interagisce con Ellie, con la ragazzina in una maniera che poi si rivela essere sul finale insomma in maniera abbastanza complessa verso la fine, in base poi anche a quelle che sono le scelte che si possono fare, no? Più che altro in base a quello che succede all'inizio. Beh, cosa succede all'inizio, ma mi sembra che alla fine, se non ho capito male, poi si possa anche fare una scelta notevole. No, cioè si può spoilerare, no, giusto? Sì, sì, alla grande. Ma non cioè, mi sembra. A quanto ho visto, quello poi magari scelta, però. Ne parliamo nel punto successivo, ma così tu hai tempo di andare su YouTube e vedere il finale. No, il finale l'ho visto, l'ha visto. Ho visto quell'alternativa. Quello che ci stavano anche Juve. Dove moriva la bambina di The Walking Dead. Bravo, per sicurezza. Bravo. E loro hanno detto: per sicurezza noi la famo morire. Poi dopo. Noi ce la mettiamo, poi vediamo cosa succede. No, e quindi dice: è l'evoluzione di un personaggio, Joel. Come vi siete trovati, mi chiedo, nel impersonare questo personaggio che, appunto, dalle diverse sfaccettature. Inizierei da Giuseppe. Ma sì, Giuseppe. No, io inizierei da Simone. Ah, inizi da me? No, perché Simone? Simone tu. Simone io? Joel. Allora, possiamo cominciare a chiamarlo Joel come Dio comanda? Joel. Come Naughty Dog comanda. Joel. Oh, Joel. Ecco, io continuo su perché... Scusate. ADBC mentale, niente. Tutto a posto. Sì, ci sono. Ok, Pizzi? Scusate, okay. Un goccio d'acqua che non c'ho più. Allora, Joel è un bel personaggio perché secondo me è un po' l'evoluzione, che poi è un'evoluzione molto rapida, perché noi vediamo all'inizio del gioco praticamente delle scene che sono scene di tutti i giorni, anche se poi in realtà vediamo un padre e una figlia che hanno un rapporto anche molto giocoso, molto particolare. Poi c'è questo salto temporale di 10 anni dove, perché ovviamente all'inizio noi vediamo praticamente tutto, dove nel frattempo il mondo è già andato, esatto, a puttane, perché noi proprio all'inizio quando c'è questo rapporto tra lui e la figlia ovviamente vediamo l'inizio di questa catastrofe, di questa infezione, e vediamo tra l'altro appunto la morte della figlia. E la cosa è un po' particolare perché in realtà la figlia non muore. Ah, tu già capisci che qualcosa sta per succedere, e forse già te lo immagini, anche perché poi più o meno, insomma, conoscendo e avendo visto i trailer e tutto quanto e vedendo la bambina, sai che quella non è la bambina che tu vedrai poi nel proseguo del gioco, quindi comunque qualcosa sai che sta per succedere. Il problema è che quello che succede in realtà è quello che non ti aspetti, cioè nel senso, come no, è quello che ti aspetti ma non il come ti aspetti, perché in realtà lei muore in una maniera proprio stronza, insomma, diciamo così, perché non è muore per colpa di infezione, per colpa mozzicata dall'infetto, da roba del genere, muore da, perché poi alla fine cade sotto i colpi degli stessi dei soldati, insomma, quindi è una cosa un po' particolare. Il flashback che noi abbiamo è un Joel di 10 anni dopo, invecchiato, e segnato. Però nonostante questo c'ha la voce di un ventenne nella versione italiana, ricordiamo. Ma io non sono d'accordo su questa cosa, non mi dispiace. Io lo giocherei in lingua originale. Mi dispiace, ma no, guarda, il doppiaggio in italiano è un signor doppiaggio. A parte che giocare in scacchi per loro è suonare gli scacchi, ma va bene. Vabbè, sì, come luci lucciole, dai. Sì, ma infatti anche tu sì. Anche Simone suoni, in realtà non suoni. Ecco. Lo vediamo appunto 10 anni dopo, segnato chiaramente dal tempo e non soltanto dal tempo. La cosa bella è che si capisce secondo me quasi subito, ma poi in realtà si capisce poi più mano a mano che vai avanti, è che lui è diventato un pezzo di merda, fondamentalmente è diventato un pezzo di merda in una società di pezzi di merda, dove sono rimasti solo i pezzi di merda per, ma in realtà lui per sopravvivere in realtà diventa un cacciatore, un bracconiere, diventa qualsiasi cosa, e in realtà la cosa interessante, più o meno realistica, è il fatto che lui in realtà rimane attaccato, anche se più istintivamente che emotivamente, a quelle cose che lui ha intorno a sé, quindi la tipa con cui lui di solito... Tess, esatto, con cui lui di solito va a fare le missioni, e quelle altre 4-5 persone che lui conosce, ma in realtà... E non solo le missioni ci ha fatto con Tess. E vabbè, comunque è più, secondo me, da quello che io sono riuscito a percepire, è più un attaccamento istintivo piuttosto che un attaccamento emotivo, perché lui comunque nel momento in cui si trova a dover affrontare un'avventura che in qualche maniera lo mette nelle condizioni di dover anche fronteggiare il suo passato, no? I suoi ricordi, lui si rifiuta proprio. Ma questo è un atteggiamento che può essere un atteggiamento banale, così come può essere anche un atteggiamento estremamente comprensibile per certi versi, soprattutto dopo che tu magari per 10 anni non è che non ci hai più pensato, ma comunque hai metabolizzato un certo tipo di discorso. E tant'è che lui in questa avventura che deve portare avanti, quindi l'accompagnare questa ragazzina da questo gruppo di ribelli che forse hanno trovato la cura, perché lei era immune praticamente a questo benedetto virus, a questo benedetto fungo, in realtà lui a un certo punto quasi decide di lasciarla, di abbandonarla, perché lasciandola nelle mani del fratello, di un'altra persona comunque che lui incontra nell'avventura, e c'è questo scontro fra... Gli stava sul cazzo fondamentalmente questa ragazzina all'inizio, quindi... Non è che gli stava sul cazzo, è che ovviamente lui non ne voleva sapere, non voleva sapere di creare quella cosa, secondo me non gli andava assolutamente di creare niente che fosse minimamente similare a un rapporto che c'aveva con la figlia. Quindi proprio non è che non vuole, tant'è che c'è la scena quando lei ha capito che lui la vuole abbandonare, quindi lei se ne va, roba del genere, lui la trova, perché ovviamente la sua preoccupazione è comunque il fatto che lei sopravviva, lei fa la sua sparata molto emotiva, molto aggressiva da adolescente qual è, e tu aspetti che magari comunque lui reagisca in una certa maniera, che comunque in altri film o telefilm appunto lui si sarebbe convertito, diciamo così, si sarebbe sciolto, invece lui reagisce con durezza, quella durezza che lì per lì neanche ti aspetti più di tanto, insomma. In realtà poi alla fine comunque lui si muove insomma di sentimento, diciamo, nei confronti di questa ragazzina, fino a portarla ovviamente a termine. Però alla morte. La cosa che, esatto, perché poi lei muore alla fine, ricordiamoci. La cosa che a me mi ha colpito particolarmente è che tutta l'aggressività, la crudeltà, la durezza che c'era in quest'uomo, e che era, come diceva Peppe prima, ovviamente uno status, visto il mondo anche nel quale viveva, ovviamente aumenta proporzionalmente alla percezione del pericolo che ovviamente c'è nei confronti di questa ragazzina, che prima è una missione, quindi un pacco, poi diventa ovviamente un legame che lui sicuramente non poi voleva, una persona, e poi diventa diventa effettivamente una persona, fino ad arrivare poi ovviamente al finale, che poi dopo magari ne parleremo, dove entra. Interessante il fatto che comunque lì tu puoi dare sfogo o no a determinate situazioni. Il personaggio, secondo me, è potenzialmente come diceva anche Luigi prima, nella sua linearità, quindi nella sua scrittura senza sussulti, però anche nella sua credibilità, è un personaggio che tutto sommato ci sta anche visivamente, perché comunque anche il volto e la capacità anche espressiva, per quanto insomma possiamo parlare sempre di espressioni digitali fatte con le tecniche che noi sappiamo, dà profondità a questo personaggio. Ho sentito molto criticare, non solo magari da Giuseppe, ma anche sulla recensione su Multiplayer, il fatto che lui aveva questa voce un po' particolare, ma in realtà se voi piano piano entrate, insomma, lo ascoltate, secondo me invece anche quella voce, che non è super profonda ma non è neanche una voce eccessivamente leggera, contribuisce a dargli poi quella profondità che questo personaggio c'ha, perché è un personaggio comunque pieno di contraddizioni, pieno di battaglie interiori, e che comunque in un modo o nell'altro, anche nella sua linearità, nel suo voler comportarsi superficialmente, nel senso non voler mostrare magari la parte positiva che dentro di lui, in realtà te non, cioè, magari è una cosa che non si vede, ma in realtà è una cosa che si percepisce, c'è comunque lo spessore, c'è comunque la battaglia interiore, c'è comunque il contrasto che c'è dentro una persona del genere, che alla fine dà sempre assassino portapacchi diventa il protettore dell'unica cosa che alla fine in quel momento gli diventa cara. Diventa assassino protettore. Diventa assassino. Diciamo che diciamo che lui fondamentalmente è, come si definisce, una merda, perché mi sembra c'è un pezzo proprio che dice siamo contrabbandieri, siamo contrabbandieri di merda. Infatti, quindi comunque lui non ha una grossa reputazione di se stesso, perché sa perfettamente che si è dovuto piegare alle cose più becere, ma secondo me neanche tanto, diciamo, onesto preciso era all'inizio, perché la telefonata che fa con quel tizio che sì, sembrava un po' suonava un po' diciamo un po' da spezza di un traffichino, non lo sai, insomma, non è, quindi è uno che sin dall'inizio ha cercato, diciamo, di sbarcare il lunario con espedienti più o meno leciti, quindi infatti in questo mondo lui comunque alla fine si ritrova e ha capito come poter andare avanti. Lo vedi in tante situazioni dove lui, per esempio, tanto per citarne una, quando loro sono col veicolo che hanno preso in prestito da Bill, no? Arrivano in quell'altra città che mi pare New Orleans, se ricordo bene. Va bene, è una città. E praticamente ci sono ovviamente quei tizi, quei balordi che vogliono, che fingono, fanno una guata e fingono, insomma, che ci sia qualcuno malato là in mezzo. Sì, si capisce che anche lui le faceva quelle cose. Lui l'ha capito subito, perché era lo stesso genere di esperienze cose che faceva anche lui, che lui faceva con Tessa. Infatti gli dice a Ellie la cintura e andiamo avanti, proprio perché sì, lui... Però la cosa particolare di lui, mentre gli altri erano profondamente anche incattiviti, lui in realtà secondo me la sua vita l'ha vissuta con un lasciarsi vivere, cioè, nel senso, dopo quello che è successo nella sua esistenza, diciamo che se 10 anni sono trascorsi, lui veramente non c'è niente da perdere. Te l'appoggio fino a un certo punto, perché alla fine, diciamo, un po' questo, diciamo, ovviamente corrisponde alla mia visione, quindi per me invece The Last of Us comunque mi ha fatto capire che appunto Joel sì è un antieroe cinico, uno che ovviamente non bada solo al suo interesse e non si fa problemi, insomma, letteralmente a camminare sopra gli altri, esatto, per andare, esatto, per andare avanti. Interesse però, si intende sia dal punto di vista di sopravvivenza, sì, che da un punto di vista affettivo, sì, sì, no? Perché sì, poi sì, lui sì, del resto di tutti ne frega veramente un cazzo, però, no? Cioè, però poi alla fine appunto a me ha dato l'impressione che alla fine non, tranne per qualche leggera appunto sprazzo di umanità verso la seconda parte del gioco inoltrata, insomma lui comunque non è che si differenzia così tanto dagli altri, cioè, è pezzo di merda dall'inizio alla fine, esatto, cioè tu per esempio lo vedi che comunque non c'è così tanto tanta differenza tra lui alla fine e lo stesso Bill, oppure già Bill tanto, ma quell'altro che stava il tizio appunto che voleva che alla fine voleva cercare di scoparsi anche a Ellie, no? Questi sono spoiler. Pensavo che fossimo ormai quello non era. Ma sì, sto scherzando, la battuta. Cioè, no? Se può fa. Ma io direi, io vorrei sentire l'opinione di Simone Cognome, ad esempio. E poi di Luigi. Ha studiato. E anche di Luigi, ovviamente. Sì, ma diciamo che Simone stava dicendo un po' quasi tutto quello che avrei detto io, nel senso, anche se lui si è lasciato vivere, è indubbio che è così, ma io penso che tolto quello, qualsiasi persona proprio per darwinismo si deve adattare poi a uno stile di vita che non permette di affezionarsi a nessuno, che non permette di vivere come viviamo noi oggi, oddio, neanche troppo, però insomma come siamo abituati noi oggi, quindi che lui sia un cuore di pietra, piano un cuore di pietra, sì, che però dentro c'ha il cuore di panna, diciamo, è anche normale, perché comunque però non è che esatto, cioè nel senso lui evolve, come dice Simone, effettivamente, perché lui comunque evolve come devono evolvere i personaggi in una storia, se no sarebbe una palla, rimane, diciamo, nella sua... però non era così scontato, cioè nel senso non è Bud Spencer, capito, l'orso cattivo, ma l'orso volendo buono, però sto pensando adesso mentre lo dico, poi mi viene in mente che alla fine non è che evolve, rimane quello che è, nel senso rimane lo stronzo che se a lui lo fa star bene stare con lei, comunque se ne frega poi del fatto che avrebbe potuto salvare l'umanità, si condanna lui stesso, però alla fine lui, cioè, nella sua vita l'ha vissuta e comunque non pensa ci abbia tutta sta gran voglia di vivere, esatto, è l'unica cosa che gli ha ridato un po' voglia di vivere, quindi sempre egoisticamente lui si muove, si comporta, rimane sempre in quell'ambito lì e fondamentalmente rimane un miserabile, cioè nel senso buono del termine, per cui però non lo so, io non so, lo diciamo pure con Simone prima di fare la puntata, che non saprei neanche dire se effettivamente il protagonista è lui di tutta la puntata. Sì, perché poi chi evolve, chi cambia di più, e il motivo cardine per cui si muovono tutti quanti è sta ragazzina. È una metafora della vita. È bello che spezzava così in questa maniera becera proprio. O come fa Giove. Continuando nel becerum, io poi ce l'ho visto dopo il finale anche un... oddio, c'è paura, le parole giuste, però insomma in quella situazione, oh mio Dio, no, vabbè ragazzi, ma non è, cioè a noi adesso farebbe così, sì, vabbè, ma lì certo va contestualizzato, anche perché è poi io che tante volte penso a lui, ho pensato a lui e dico ma che stronzo, cioè pezzo di me, poi ti dico tu bravo, cioè non avresti condannato l'umanità per salvare una cosa. Questa è una domanda che mi sono fatto tante volte. Arriviamo fra un po' a questo, magari. Infatti, sì. Comunque niente, questo era il, per quello dico che io magari il protagonista non è proprio lui, e non è perché lui lo manovri per tutta la durata del gioco necessariamente debba essere lui il protagonista, o si interpretano loro come due nuclei, cioè un nucleo fatto da due cellule, diciamo, e possiamo metterci Joel e Ellie, oppure io vedo che il cardine dove gira tutto è lei. Sì, che come dici te, la protagonista è impotente, però, perché poi in realtà lei magari la scelta l'avrebbe anche fatta, no? Forse lei la ma scelta, la scelta alla fine la, ma veramente la fa, perché poi io sentendo, mi pare che c'era proprio Luigi con Ugo Laviano su Outcast quando hanno fatto il pezzo in più sul The Last of Us, io effettivamente lì ho avuto l'illuminazione che poi possiamo arrivare, però lei alla fine sceglie di credere, anche se non è, si vede chiaramente non ci crede a quello che gli dice lui. No, aspetta, al finale, lascia perdere il finale adesso. Io dico, cioè, nel senso, comunque lei è protagonista impotente, perché comunque se lei comunque decide di andare, di farsi accompagnare, è perché lei è consapevole di quello, anche se lei non è consapevole delle conseguenze, no? Cioè lei sa che lei può salvare l'umanità e quindi vuole che costi quel che costi. Esatto. Comunque, prima di arrivare a questo, Luigi, Joel. Sì, allora dico a Simone che praticamente Simone chi? Non so se non tu, l'altro. Ok. quell'attrezzo. Altro cognome. Sì. No, non so, non credo, non ho registrato io Outcast con Laviano, perché la prima volta che sto parlando di Last of Us è adesso. Allora credo che fosse Ugo e Stefano. Sì. Ah, te la dico, sì, scusa. No, ci mancherebbe. Okay. No, perché ti buchi le ruote per questo, ma no, registro in diversi podcast, a volte può scappare, dico, ma prossimo non mi ricordo che ho fatto qualcosa. Poi però ho fatto 2+2, ho detto aspetta, l'ho finito da poco la sto base, ne parlo la prima volta qui, per cui è difficile che mi sarei spoilerato qualcosa. No, era con Stefano, te la dico. Dunque, già Naughty Dog, la scelta che ha fatto di proporre due versioni limitate, una per Ellie e una per Joel, lasciano pensare che la forte caratteristica, la forte impronta che hanno i due personaggi nell'economia del globale del videogioco è quella di essere entrambi personaggi principali, quindi non è facile stabilire una e questa è differenza. Questa è una grande qualità della scrittura, anche questo, che trovare un equilibrio per avere due personaggi che non sarebbero tali senza l'altro, comunque. Sì. Ma tenendomi alla domanda su Joel, dico che avendolo vissuto in maniera molto epidermica l'evoluzione di Joel all'interno del videogioco, quindi cercando di capire esattamente quali sono le dinamiche psicologiche di interazione con Ellie che si sono potute verificare durante il suo viaggio, che sia interiore sia esteriore ovviamente, dico che secondo me si è operato un processo all'interno dell'evoluzione del suo rapporto con il mondo di gioco e con se stesso, cioè all'inizio lui era assolutamente disincantato rispetto a tutto, non credeva che sarebbe arrivato alla fine della missione, e l'abbiamo visto tante volte, perché voleva tirarsi indietro e lasciare la ragazzina, rifiutarsi di consegnarla come pacco, quindi scortarla durante il viaggio. Poi però secondo me, dopo tutto l'inferno che hanno passato assieme e che abbiamo quindi passato anche noi come giocatori, da un punto di vista dell'immedesimazione del personaggio e anche delle sfide che ci venivano proposte, situazioni abbastanza liminali, cose veramente brutte da vedere dal punto di vista dell'horror, ambientazioni molto claustrofobiche. Ricordiamo Luigi, un anno, un viaggio lungo un anno, sì. 365 giorni, 24 ore su 24, no? Sì. Quindi c'è un rapporto. È stata sicuramente la frequenza con cui hanno passato questo tempo assieme ha influito su l'aspetto che sto per dire, cioè che a un certo punto, secondo me, Joel ha cominciato a dire: forse è destino che io debba portare questa ragazza fino alla fine dove dovevamo arrivare, perché se non siamo morti fino adesso, abbiamo vissuto tante di quelle cose, tutti i nostri compagni sono morti di viaggio, siamo rimasti soltanto noi, ma che quindi... portiamo sfiga, no? No, invece oppure siamo gli eletti, tipo Matrix. Quindi se, secondo me prima ha operato questa sorta di cambiamento psicologico in lui, quindi la maturazione di Joel passa attraverso una presa di coscienza che, se vuoi, è anche un po' di tipo metafisico, se vogliamo, cioè nel senso, oltre a tutto quello che è successo, adesso andiamo a vedere lo spirito che ci ha portato fino a qui, come sta disegnando il nostro percorso. E poi c'è l'aspetto, ovviamente, del rapporto con Ellie, che è innegabile che gli ricordi la figlia e quella che non è riuscita a proteggere al tempo. Esatto. Quindi Ellie copre due ruoli: uno, quello di figlia, quindi persona da proteggere, e l'altro, riscatto nei confronti del mondo che lo ha in qualche modo soffocato. E quindi l'evoluzione passa anche al dire: io non lascio solo questa persona perché è una mia ragione adesso di vita, anche se non è mia figlia sulla carta, ma è una ragione che mi continua a far andare avanti, a far credere. Anche se lei all'inizio c'ha avuto un primo stadio ulteriore a quei due che hai detto te, che è stato quello del ricordo che si presenta e del quale non ne voglio sapere, no? Cioè, nel senso, comunque lui veramente non ne vuole sapere all'inizio. Più volte anche ti ricordi quando salta fuori la foto di sua figlia che la ritrova poi Ellie, che glielo vuoi dare, lui comunque cerca di chiudere subito il discorso. Lui non, ricordare, esatto. non la vuole, non vuole dargli subito corto. Esatto, non vuole ricordare il dolore e non vuole soprattutto che Ellie all'inizio prenda il posto della figlia. Esatto. Cioè, nel senso, lui si rifiuta a priori, anche se tu sai già che quella poi sarà un destino, comunque, come dice anche Luigi. A me una cosa che veramente mi ha affascinato è il fatto che nella grande evoluzione del personaggio, lui però quelle sue caratteristiche oramai innate in lui, cioè oramai incorporate in lui, quindi quella spietatezza, quella disinvoltura anche nell'uccidere, sono cose che gli sono rimaste fino alla fine, ed è una cosa che mi ha impressionato, perché lui è veramente un personaggio in grado, non è neanche bipolarizzato, è anche il suo provare affetto, che più provare affetto, più questo suo senso di protezione è compatibile con questa sua spietatezza, perché veramente oramai il rapporto fra loro non assume un rapporto padre e figlia, e quindi grande affetto, grande amore, assume però un rapporto, sì, naturale, cioè nel senso di natura, cioè nel senso, io sono l'alfa che protegge il branco. Esatto, cioè nel senso, lui la protegge come se fosse il lupo padre, capito? Cioè, quindi con la naturalezza e quindi con la stessa spietatezza con cui la difenderebbe anche di fronte al pericolo della morte. Quindi è quella la cosa che... C'è una cosa che volevo aggiungere. Scusa Luigi, io purtroppo ogni tanto vado così. No, non ti preoccupare. Praticamente è importante la maturazione di Joel, per concludere, anche il carattere di Ellie, a prescindere adesso da come è maturata Ellie dall'inizio del viaggio alla fine, ma quello che ho notato è che Ellie comunque è una personalità molto delineata, matura, forte, adulta, e questo secondo me impressiona anche Joel. Non ha a che fare solo con una ragazzina, ha a che fare con una donna in nuce, tant'è che secondo me, però qua potete anche riprendermi se volete, c'è una sorta di anche innamoramento, erotismo latente, bravo. Che si delinea fra i due personaggi. Lui ammira molto Ellie per come riesce ad avere questo carattere così forte, essere così spigliata e senza mezzi termini. Rimane stupito, probabilmente, perché non si aspettava, insomma, questa sorta di veemenza così marcata da parte di una persona adolescente, così giovane, a 14 anni. Beh, Ellie, se non sbaglio. Luigi, si potrebbe quasi dire che a un certo punto Ellie sta quasi per praticamente prendere anche il ruolo pure rivestito da Tess dopo che è morta. Fondamentalmente, sì, c'è questa sovrapposizione. Esatto. Se vuoi leggerla così anche, e non dimentichiamoci che sempre nell'ottica della maturazione di Joel nei confronti di Ellie, c'è una cosa che volevo dire su Ellie in particolare che mi aveva colpito. Porca miseria, scusate ragazzi, che c'ho il discorso in mente. Nel mentre che ci pensi, posso aggiungere una cosa? Sì, riferendomi a quello che tu hai visto e che ovviamente poi Simone ha, ha comunque diciamo così fatto capire che anche lui poi alla fine, perché poi tu Simone pure l'avevi detto prima, insomma, che potevi vedere potenzialmente successivamente al finale anche un rapporto diverso, no, successivamente tra... ma non so, però sì, ecco sì, aspetta, ma... finisco poi dopo dici, sì, dici sì. La tua, che secondo me questa poi è un'opinione mia, un rapporto particolarmente evoluto tra un uomo e una donna, qualsiasi esso, qualsiasi sia l'età, comunque voglio dire, ha un qualcosa di naturalmente e innatamente erotico, quindi cioè, c'è sempre comunque un, quando c'è una complicità profonda, purtroppo soprattutto in situazioni estreme, soprattutto in situazioni estreme puoi essere anche lo zio, come puoi essere chiunque, comunque alla fine c'è comunque quel velo strano, strano, cioè nel senso quel velo che poi alla fine è un velo estremamente naturale, e che poi probabilmente è proprio la natura stessa che in qualche maniera mette in funzione. E, mi sono ricordato. Sì, ok, non finisco. Dico, non è detto che, cioè, nel senso che poi in realtà che vada sviluppata, esatto, ci sia questa cosa. Sì. Quindi, no? Anche perché comunque i vuoti che lui deve andare a colmare sono due. Probabilmente tendi, diciamo così. Anche se poi io so che, e non so in che cosa specificamente, ma magari ce lo dice Giuseppe o chi lo sa, la versione europea è comunque una versione molto alleggerita, non certo. Un po' censurata, sì. Oddio, in realtà quello che era stato più censurato era il multiplayer con le varie, diciamo, le fatality, insomma. No, io invece ho letto mosse. Proprio che ci sono alcune scene che nella europea sono state. Ma guarda, il gioco comunque di per sé è abbastanza comunque violento. Sì, diciamo che non si risparmia. Esatto, non si risparmia niente. È un gioco dove dall'inizio alla fine tu prendi probabilmente gente, quella scena ammiccata che tu dici che c'è quel tizio lì che la stava per violentare. Sì. In realtà forse nella versione americana è un po' più esplicita quella cosa che... Guarda, è veramente inutile, anche perché... È una situazione dove io per esempio non l'avevo percepita quella cosa, sai? Io l'ho percepita dopo, perché lei dice ha cercato, ok, però lì che lei dicesse quella cosa poteva anche essere pretestuoso, cioè nel senso, in realtà invece Giuseppe dice che lui l'aveva percepita comunque come sì, allora la tensione di uomini, allora capito? Cioè, La tensione sessuale ci sta. E ci sta già da quando lei comincia a vedere parti di esseri umani tagliati e compagni. Chi è che però ha detto sta cosa? In quel momento è veramente. Tu cioè, l'hai detto ieri sera sta cosa. Sembra. Sì, perché lì è un momento dove si ritorna proprio alle origini. Non lo so, perché quando lo giocavo. È il mondo brutale che porta tutto all'estremo. Quindi è chiaro. Si che... ritorna. Ragazzi, proprio. Le risorse sono limitate. A un certo punto. Dovete mangiare. Hai ragione. Non fate gli schizzi. Però facciamo finire Luigi. Che è esatto, rimasto con ricordo in canna, come si dice. No, sto vedendo qua adesso dei video con The Last of Us. Ellie gets raped. Ellie viene stuprata, violentata. E attenzione, perché potrebbero esserci dei video lì che magari no, sto vedendo. Ma stai cercando su YouPorn o su sta su YouTube, versione americana. Voglio vedere in che modo che comunque scusate, sto vedendo adesso in diretta, perché si vede se è censurato. Sto vedendo anch'io adesso, cerco. Thank you. Nel mentre vabbè, mentre che guardi, potevi finire i nostri contatti www.dietrologiavideoludica.it. No, non c'è, ragazzi, mi sembra che non c'è censura. Nel senso, è la scena in cui cerca di essere violentata, però li prende poi salta in groppa questo qui, li prende poi, ricordate, il coltello da sotto quel termosifone dove c'era. Io ero talmente in ansia in generale per la scena, voglio dire, avevo percepito sta cosa, no? Però non è assolutamente diversa penso che la censura sia soltanto il multiplayer, sì, effettivamente. Vabbè, comunque Luigi, tu cosa volevi dire prima di questo? Cioè, quando... Allora, sempre nell'ottica della maturazione di Joel, c'è stato un cambiamento decisionale in lui nel dire ok, ti do una mano, quando Ellie per la prima volta piange e dice io ho paura, cioè come a dire io ho bisogno di essere protetta, non posso lasciare essere da sola. Sai perché mi è piaciuto quell'aspetto di consapevolezza di Joel? Per un motivo molto, molto semplice. Ellie, nonostante l'età molto giovane, sa che Joel è particolare, lo ha riconosciuto che è particolare, sa che non lo deve ferire, allora cerca di fare di tutto per non ricoprire il ruolo di ragazzina che ha bisogno d'aiuto o per far scazzare Joel fondamentalmente. Sì. In quel momento lì invece si scopre. È l'unica parte in cui chi dice chiaramente aiuto, cioè non vuole restare sola. E lo dice in un modo come a dire: adesso te lo devo per forza dire, insomma, perché non voglio stare solo, ecco per come che te ne vai, perché ho paura. Eppure perché... lì è lo stesso, lui probabilmente è dove gli scatta il meccanismo, eppure lui lì reagisce comunque, sì, brutalmente. In quel momento, sai cos'è? È una dinamica psicologica che fondamentalmente accade quando in un ambito di chiusura, di sofferenza, noi ci apriamo all'altro. Quando è che succede? Succede quando l'altro si mette in noi e fa qualcosa affinché noi non veniamo feriti da questo, del suo atteggiamento, e tu ti rendi conto, dici: guarda cosa sta facendo l'altro per me. È come se ti mettesse davanti uno specchio, per intenderci. In quel momento Joel si è trovato di fronte a uno specchio a dire: ma che cazzo sto facendo? Fino adesso l'ho portata fino a qui, adesso gli volto le spalle per una questione di orgoglio, per una questione che me ne voglio davvero lavare le mani. Non è vero, invece io voglio andare fino alla fine, lo voglio proteggere. Beh, quindi... anche perché gli darebbe uno scopo, è l'unica cosa che gli dà uno scopo in quei giorni, visto che Tess pure è morto. Sì, infatti. Sì, però non lo vedrei solo in questa meccanica qui, cioè nel senso soltanto di avere uno scopo, come con Licio. No, e anche perché però influisce. Però influisce comunque, secondo me. Sì, sì, influisce, ma non è solo quello. Cioè, in questo caso lo scopo può trovarlo anche da solo, senza bisogno di Ellie. Come nel senso, come a dire: vabbè, l'aiuto e basta. Invece Ellie ha determinato questa sua scelta proprio perché lo ha messo di fronte ad uno specchio. Cioè Joel si è visto per la prima volta davanti nudo e ha detto: me coglione, ha detto. Mi sto comportando in maniera molto egocentrica, egoistica, se vuoi. E mi è piaciuto molto questo. No, sì, sì, è vero. Che è l'unico in cui Ellie fa la bambina, tra virgolette, cioè nel senso si lascia un po'. Bravo, bravo, lui fa la bambina, lei fa la bambina in quel momento. E quello è il crocevia poi della storia, comunque, in qualche maniera. Sì, è interessante quell'aspetto lì, anzi denota ancora più forza paradossalmente in Ellie che debolezza invece. Posso fare una domanda velocissima e poi Stefano andiamo avanti? Sì, direi che è il caso. Scusa Stefano, abbi pazienza. Io ti capisco che purtroppo ma Stefano potrebbe Stefano dare il via. Stefano fa il notaio della situazione. Stefano, tu io vi tengo d'occhio. Puoi anche dire Stefano, la tua. Tengo d'orecchio, anzi. Potrebbe dare il via Stefano e da lì possiamo pure concentrarci poi andando avanti sul finale. No, allora via. Faccio soltanto una domanda. Qual è stato il momento più bello? Poi partiamo da Giuseppe, poi Luigi, Marco, Simone e vabbè, compagnia bella. Qual è stato il momento più bello di Last of Us? Allora, secondo me il momento più poetico, più bello, io ho detto. Poi, vabbè, quello che mi ha poi sta a te, voglio che, scegliere. Che ricordo con più piacere, a parte vabbè, il finale, insomma, che poi andremo a parlare, è stato il momento in cui dopo Ellie scopre per la prima volta le giraffe. Nello zoo, esatto. C'entra un cazzo, però... No. Quello... perché mi è piaciuto. Perché ma perché è bello anche come si comporta lui. Non solo, ma perché per la prima volta, diciamo, vedi che... Vedi che Ellie... Mi sta rovinando tutta la poesia, però, dai. Guarda che bella. Non è necessariamente di fare forse lo stronzo. No, vedi comunque che Ellie, insomma, acquista un po' di quella innocenza che fondamentalmente aveva perduto dovendosi, insomma, arrangiare in questo mondo. No, perché comunque Ellie ha sempre vissuto, anche prima di Joel, da quando c'è stata l'epidemia, in una certa maniera, sempre nascosta, eccetera. Poi anche con Joel comunque si è dovuta un po' emancipare, no? È dovuta continuare a crescere in fretta e quindi non comportandosi più da bambina. Là invece è una delle poche volte in cui tu la vedi veramente con gli occhi proprio che le sbriluccano gli occhi, ma che registicamente e visivamente è fatta bene proprio la scena. Luigi, Non ce l'ho un particolare momento bello, ma tanti momenti. E penso che siano quelli. Scegliene uno, dai, voglio così. Quelli transizionali, in cui praticamente puoi godere del paesaggio, tipo i momenti dopo il passaggio temporale evidenziati da una didascalia. Subito dopo, che ne so, la scena in cui prima che vanno a trovare il fratello si trovano a fare questa escursione, sono tipo in montagna, sembra, a fare un'escursione con gli zaini, eccetera, e comincia a piovere, c'è l'acqua, c'è il fiume, tutto quanto, e parlano così fra di loro, con gli abiti cambiati, eccetera. Quando puoi osservare il paesaggio, che poi voglio dire qualcosa su questo, perché non c'è una domanda, ma voglio fare un approfondimento del ruolo che ricopre il paesaggio come protagonista di Last of Us, in quei momenti ho goduto del videogioco come aspetto di virtuale, di una realtà altra che mi permetteva di uscire fuori da me, godermi delle sensazioni paesaggistiche, per ripetermi, in quei momenti dico sempre: questo è un grande gioco. Questo è veramente, so che l'hanno fatto con coscienza i programmatori a darmi questo ritmo così compassato qua, e me la sto godendo. Che bello non essere al lavoro, che bello che è domenica e stare adesso a giocare a Last of Us e godermi questo impianto grafico così maestoso. Marco, io raddoppio quello di Sasso, perché anche la giraffa che si sono mangiata è stato bello. Finale, poi mi sono più, quelle che mi sono rimaste di più impresse sono le parti dove Joel fa proprio lo stronzo pazzo, quando tortura i due tizi e alla fine spara, quando gli dà l'accettata sul ginocchio, la coartellata. Vabbè, sì, quello che era la coartellata. Lì proprio dice: io ti faccio a pezzi. No, appunto, quello è che lui ha mantenuto veramente la sua spietatezza. No, vabbè, anzi, l'ha amplificata. Allora, a questo punto mi rintrometto un attimo. Un'altra parte che comunque mi ha un po' toccato è stato comunque nel finale, quando dopo che è riuscito, insomma, a scappare con Ellie, poco prima di lasciare l'edificio. C'è quell'altra tizia che l'aveva ingaggiata, che comunque le prega a tutti i costi di ripensarci, e comunque lui alla fine non gliene frega niente, anzi è costretto proprio a spararle, perché altrimenti gli avrebbe dato la caccia. Esatto, avrebbero dato la caccia. E Simone? Allora, io pure, diciamo, c'ho due spot. Allora, uno, che è quello che mi ha cominciato a far dire cazzo che sto giocando, è stato il momento del, mi sembra sia il museo, appena entrano con poco prima che muore Tess, che lui si incazza e gli dice: è finita, tipo, però glielo dice, sì, e fa degli occhi che penso neanche un umano riuscirebbe, cioè fa uno sguardo e uno strillo che io ero come te, sono rimasto tutto, ho fatto no, ok, è finita. Sì, io sì, detto, sì, cioè, è così, è, sai che, cioè, ti comando, però è finita, vabbè. Sì, esatto, ci sono delle, questo mi fa in tutto il gioco, però ci sono, lui fa tre sguardi e hai capito tutto. Sì, sì, è vero. Ti mette i brividi, perché quando fa quello strillo proprio inaspettato, così proprio di pancia, mi è piaciuto tantissimo. E poi quando, due momenti però, diciamo, potrebbe essere uno, due momenti quando però, forse sono scemo, però in game, cioè quando lei fischia, sì, che ci prova, sì. Sì, però tutto il gioco mentre stai a fare altro lei ci prova. E quando a un certo punto lei ti aiuta e fa: hai visto che gli ho fatto? Tipo che ti dice, che è entusiasta perché è riuscita. Tipo l'approvazione. E lì sono rimasto uno scemo, perché quella è la parte in più che dà Last of Us ai videogiochi, perché ti dà l'evoluzione dei personaggi durante il gameplay, sì, che è una roba che. Sì. Questo è proprio il botto. Vabbè, più, o diciamo, come quando scopri per la prima volta in game che lei comincia ad aiutarti, che per la prima volta che tu vedi che lei tipo tira un mattone a uno per. Sì, però l'hanno rovinato, sì, perché è stata l'unica cosa che hanno mostrato nei vari E3, sì, quindi questo, era quello che aspettavo. Vabbè, oppure anche quando, per esempio, se tu in alcuni punti, se tu non fai niente per qualche secondo, per esempio c'è Ellie che tira fuori il libro, quello delle barzellette, e si comincia a leggere, quello non l'ho ancora, quello l'ho scoperto, numerato, perché a un certo punto non sapevo dove andare da una parte, dovevo alzarmi insomma per fare altre cose, e ho visto sta scena. Voi per esempio questa qua non lo sapevate, ma Ellie in alcuni punti, se tu rimani, ovviamente non devi fare pausa né niente, devi semplicemente non giocare, non posare il controller e non fare niente, devono essere infetti intorno, esatto, sì, diciamo i momenti più rilassati di esplorazione, ecco. Lei tira fuori sto libricino delle barzellette. Lei poi per uomini lì, cioè con le due pagine appiccicate, esatto. Insomma, non è bello. Invece i miei due momenti, uno è un po' facevo riferimento a quello che diceva prima Luigi, a quando lei comunque prima quando lui l'ha vata a riprendere dentro la casa, che lei era fuggita, e lei stava leggendo quel diario e dice: vedi, questi c'erano da pensare alle feste, a quello che si dono mette, ai vestiti, vero, cioè, sono questi i problemi che ci avevano. Oppure del fatto di andare al cinema, no? Che lei non era mandata al cinema. Ma perché lei, quando lei non controlla il videogioco, anche, no, ma anche scopri per la prima volta pure il carro dei gelati, perché a quel tempo c'era uno che con camioncino dei gelati, esatto, vendeva i gelati per strada, anche le belle navi, le barche. Oppure il videogioco, dice, io non ci ho mai giocato, se mi piacerebbe giocarci, no? Lei faceva, simulava di giocarci, no? Pure quello, cioè sono tutta questa serie di elementi che creano empatia, creano comunque plausibile, e che sono plausibili, esatto, bene, cioè che in realtà potrebbero essere di contorno in un altro, e questa è la cura del dettaglio, no, per certe cose, che non è solo dettaglio, ma perché è comunque narrazione anche nel mentre altri giochi non raccontano, in quelle fasi dove di solito il racconto non c'è, no? E poi sì, vabbè, quello delle, oppure quello delle giraffe, chiaramente, cioè, vabbè. Quella. Oppure nel gameplay è legato a devi uccidere quello, devi andare, cioè questo è la narrazione del gameplay di Aldanti giochi, capito? Sì, infatti, no, sì, esatto, esatto. Me, una delle cose particolari è il fatto che Ellie sia nata in un mondo che è già così, giusto. A differenza della maggior parte dei giochi dove la protagonista, facciamo appunto l'esempio, si può definire nativa micotica, diciamo. Esatto. Forse non è, no, perché sono passati 10 anni, lei c'ha 13 anni? 14 anni. No, 20 anni sono passati. Ah, 20 anni. Okay. 20. Sì, quindi cioè lei è cresciuta in quel mondo. Lei è nata e cresciuta, esatto, in quel non mondo, sa, esatto, bene com'è, cioè il mondo che c'era prima, che era completamente diverso, sembra una cosa inventata quasi per una persona che è cresciuta, nata e cresciuta lì. No, ma infatti lei quando trova tutti i riferimenti, anche i dischi, le cose, no? Cioè lei comunque è come se lei esplorasse esatto, libri di storia o di mitologia ancora. Una civiltà perduta. Oh. Esatto, bravo. Guarda, quello la stessa civiltà, cioè la nostra civiltà attuale, quindi niente di che, insomma, quella incredibile per noi, che alla fine voglio dire, certo, prima o poi, no? Prima o poi scopriranno l'esistenza di questo fungo, no? Esatto. Certo. Io direi quindi di passare alla domanda che riguarda il multiplayer e poi quella sul finale. Ah. Chi è che l'ha messa la domanda? Invertiamo. Tu, multiplayer, ma salut. Io penso, quindi allora, caro Giuseppe, veloce, cosa ne pensi? Il multiplayer come tradizione negli ultimi giochi, che lo devi mettere comunque? Vabbè, indubbiamente comunque ce l'hanno rifilato per richieste ovviamente di Sony, anche perché se mi ricordo bene loro i primi tempi dicevano no, noi non metteremo multiplayer, così come anche il dietro front sui DLC, no? Però nonostante appunto sia effettivamente sì, l'ha inserito in maniera abbastanza pretestuosa, comunque è fondamentalmente anche molto spoglio, perché è una scusa fondamentalmente per prendersi appunto a Molotov e a mattonate in faccia. È anche divertente un pochetto, sì, però ma po', per esempio non ha un bel e proprio background, tranne dei titoli, un testo all'inizio e alla fine di questa campagna che vai a fare, che oltretutto neanche si differenzia se scegli una fazione o l'altra fondamentalmente. Però in ogni caso è dannatamente, dal mio punto di vista, divertente, anzi per certi versi l'ho anche preferito a quello classico appunto di Uncharted, dove ci si sparava e basta fondamentalmente. E Luigi? L'ho giocato molto poco. Io purtroppo, essendo abituato al gioco con Xbox per quanto riguarda il live, quindi il multiplayer, la versatilità del live, la cross chatting game eccetera, non riesco a giocare dove non riesco a comunicare, dove ho questo filtro che è un cemento completamente chiuso nei dialoghi, nelle parole, e poi nella qualità audio pessima. E quindi ho giocato quel 4-5 partite, ho visto un po' com'era tutto quanto, eccetera, e l'ho abbandonato. Non mi sembra. Mi sembra stata una parte talmente minima e rilevante rispetto invece al portato artistico del gioco stesso che non mi esprimo. Vabbè, quantomeno Luigi, non ti preoccupare, tanto con PS4 hai visto che cambierà radicalmente. Sì, sì, sì, sì. Ma io, guarda, mi ritrovai a parlare con Gaetano Ruvolo, che era uno dei manager Sony, in una conferenza che si tenne a Roma nel 2009. Dissi proprio questo, cioè non fui a dirlo, lo pensai, lo disse uno. Disse, ma perché non avete incentivato, e si parla del 2009, quindi sono 4 anni fa, la cross chat in game nella PS3, perché tutti questi problemi, eccetera. E lui rispose in una maniera molto decisa, devo dire, non è priorità della nostra azienda adesso concentrarsi in questo settore. Cioè, sapeva che cosa risponde, quindi. Questo detto, cioè, come a dire, non ci interessa quasi dire questa parte qua. Ma per me fu una cosa, Peppe, molto sentita. Dico, ma ti rendete conto che voi fate competizione con Microsoft, che invece è meravigliosa dal punto di vista della comunicazione, della versatilità, delle chat, eccetera. Tu si sono fregati. E quindi, quando adesso ho sentito che PS4 ovviamente si allineerà agli standard Microsoft, in qualche modo sarà molto intuitiva, allora dico, allora mi piacerà sicuramente affondare i denti nel comparto di più. No, noi non abbiamo mai fatto un tempo a giocare online sull'Xbox, perché ci si è sbagliata prima. Su Last of Us sì, abbiamo giocato un pochetto, ma cioè, a parte in generale noi siamo... Ma io diciamo che ce ne frega un cazzo, multiplayer in qualsiasi gioco, cioè 99% dei giochi single player, dove c'è multiplayer, è comunque buttato lì per caso. A meno che non si vada su giochi come l'ultimo Mass Effect, o l'ultimo o l'ultimo Splinter Cell, o l'ultimo Dead Space, dove c'è la coop, o quello online, multiplayer online, che permettono di acquisire dei bonus da utilizzare nel single player, e bestemmie su chi lo usa, perché questa è veramente una porcata, secondo me. Per il resto, sì, anche perché sono poi tutte, va a far cura. Per il resto sono tutti quanti buttati, cioè improvvisati. Il multiplayer, secondo me, dovrebbe essere proprio separato. Cioè, dammi il gioco a 40 euro, il multiplayer a 20, e vaffanculo. Cioè, fai due cose separate e non per le palle. Simone, tu l'hai giocato in multiplayer? No. Ok, vabbè. No, perché non ci ho avuto. Vabbè, non ci ho avuto manco né voglia, però un tempo fondamentalmente. Allora direi che Stefano, puoi andare avanti. Andiamo sui finali. Quindi, notaio, ecco, anche il multiplayer direi che è stato un po' buttato lì in generale. Per concludere la domanda, sì, qua veramente sembra di capire che, cioè, insomma, come dice, Marco, in tanti giochi, sì. Ma in The Last of Us secondo me ancora di più. Ragazzi, questa è l'ultima domanda, giusto? Sì. Io volevo dire una cosina sul gioco in sé, però non so se dirla adesso. No, alla fine dici la tua conclusione. Ok. Bene, quindi il finale, super spoilerone, massimo, sì. Boss finale, Road to World Cup 98, eccetera. L'abbiamo detto. I diversi finali alternativi trapelati in rete, il sorriso amaro, eccetera. Cosa ne pensate del finale? Quali finali avete preferito? Anche, mi chiedo a questo punto, i finali alternativi degli sviluppatori. Diciamo, i finali alternativi, forse Giuseppe li conosce. Non era un, cioè, nel senso, finali alternativi nel senso di possibili che avrebbero potuto implementare, ma che nel gioco presente, perché finali alternativi non ce ne stanno. Esatto. Cioè, c'è un solo finale che ha sparato al signor Barnes praticamente in alcune sessioni gli sviluppatori praticamente hanno raccontato quale erano a senso un possibile sviluppo della storia di Joel e di Ellie, e per esempio in una loro avevano previsto che Tess non morisse, come avviene circa un terzo del gioco, sì, super, sì. Anzi, durante il viaggio appunto che fa Ellie insieme a Tess e a Joel, praticamente un ipotetico altro personaggio, che era appunto il fratello di Tess, perdeva la vita. E allora poi in seguito Tess avrebbe lasciato il gruppo, ma non se ne sarebbe il risentimento covato era tale che si sarebbe, diciamo, accordata insieme ad altri cacciatori, appunto, per dare la caccia come vendetta a Joel e ad Ellie, e addirittura arrivando pure a catturarli, Joel riusciva ovviamente a fare scappare prima di essere catturato a Ellie, solo che Tess arrivava proprio a torturare, come si vede anche da una delle immagini dell'articolo di Polygon che linkeremo nelle note dell'episodio, sì, ve lo linko pure un attimo in chat. E praticamente poi il gioco sarebbe finito con uno sparo, con il classico fade to black, insomma pensatelo un po' come lo sparo quello di The Walking Dead, per intendere. Okay, lì allora probabilmente che si pensava fosse in realtà uno sparo non di Tess, che appunto puntava la tempia alla pistola contro la tempia di Joel, bensì di Ellie, che in realtà non seguendo le indicazioni di Joel sarebbe tornata indietro per assistere appunto alla tortura di Joel e quindi avrebbe sparato a Tess per salvarlo. Questo, diciamo, era il finale. Posso dire una cosa? Alternativo. Ringrazio Dio del finale, sì, che ci hanno dato. Quello sì. Allora, Luigi, sì, lui. Era un finale da videogioco, sarebbe stato. Esatto. Stefano, ricostruiamo il punto finale e facciamo fare il giro partendo da sempre Giuseppe, Luigi, Marco, Simone e poi. Posso essere per secondo? Posso essere secondo questa volta, visto che ho parlato fino a poco fa. Allora inizi da Marco, va bene? Sì, dai. No, invece inizio da te. Iniziamo. Sentiamo cosa mi dici. Cosa? Però ripormi la domanda a parte finale di alternativa. Ti ripongo la domanda, ovvero il finale di The Walking Dead, stavo dicendo. Di The Walking Dead muore la bambina, chiaramente. Muore la bambina, quello già lo sappiamo. No, in questo caso il finale di The Last of Us, cioè l'ultimo culo, come l'ho pronunciato io in questo caso. The Last of Us. Cosa ne pensi? Ti è piaciuto? Se eri aspettato qualcosa di diverso, ti ha colpito il... come dire, il finale in sé, come impatto, come... Guarda, posso dire una cosa? Allora, diciamo, noi sì, abbiamo visto il finale insieme a Marco. Abbracciati, spero. Che, Abbracciati, sì, sì. Con le mani nei reciproci piselli. Nei, proprio. All'interno, nei. È una cosa molto... Sì, vi siete operati. Con penetrazione poligonale. Cioè. Vabbè. Torniamo un attimo. A parte ciò, sì. Allora. Oddio. Ho sentito. Peppe, no, ho detto Dio perché mi si è formata una certa immagine. Ma no, cervello, no, quindi... C'era pure il glitch, ma già così. Esatto. Allora. Fortuna non possiamo vederlo. Torniamo un po' al decoro. Il finale di Last of Us. Finale, allora, sì. Cioè, avete presente quando uno va al cinema e finisce un film? La persona con cui sei andato, o le persone con cui sei andato al cinema, te guardi, dice, ma sì, insomma. Oppure finisce il film al cinema, quando tu stai uscendo inizia il dibattito. Ah no, però indice di un film o di una storia che ti ha lasciato. Dipende pure da chi vai, perché se vuoi faccio una piccola parentesi. Vai. Però io sono a vedere la Pacific Rim, non so se avete visto. Sì, vabbè, ma non è che ci fai un dibattito su Pacific Rim, dai. No, io esco e ho detto, beh, insomma, rispetto a Transformers, voglio dire, no. E sono andato al cinema con gente che mi ha detto, no, Transformers 2 è un capolavoro. Quindi esatto, a quel punto io sono orgoglioso di non andare al cinema con le persone con cui vai dentro. Amici da 20 anni, capito? Persone con cui sei cresciuto che ti dicono così e tu dici, fatto come? Ti svegli all'improvviso e dici, ho vissuto in un altro mondo. Esatto, dove cazzo hanno vissuto le persone? Cioè, io non riesco veramente a... Oppure mo chi si salverà dalle forze del male? Forze del male, esatto. E probabilmente salveranno loro, io morirò. Ma male, sì, però. Ma infatti siamo noi che non capiamo un cazzo, è quello il problema. Esatto, vabbè, comunque, il discorso è questo. Che al di là del finale, che potremmo anche sviscerare o raccontare, penso di sì, visto che comunque abbiamo detto penso di sì, che non c'erano spoiler. In buona, sì, in buona sostanza, una cosa veloce, cioè, sì, cioè, in buona sostanza, nella parte finale. Piccio, non è che perché tu c'hai sonno adesso noi dobbiamo andare veloci, mo perché tu adesso non tu hai fai partecipato. La velocità che te dico io, fa fuori, uccido okay. Tutto ovilone. Vabbè, comunque, se me fate andare, forse me ne ce la famo pure. Insomma, dici. E vabbè, prego. La parte finale di questo viaggio, praticamente Joel riesce ad arrivare, anche se in maniera un po' turbolenta, al laboratorio dove praticamente viene consegnata questa ragazzina. Quando lui si sveglia, praticamente lui è in questa specie di letto di ospedale dove gli fanno capire che per estrarre praticamente il fungo, cioè per estrarre comunque quello che serviva per poter fare il vaccino X, no. In realtà la bambina avrebbe deve morire devono perché gli devono levare tutto il cervello, quindi in buona sostanza, e quindi lui insomma diciamo che non è molto contento di questa cosa qui. E tant'è che se ne ha un po' a male tant'è che ovviamente tortura la guardia che lo sta scortando fuori e tutti quanti dentro l'ospedale per farsi dire dove sta sta bambina. Ma la scena incredibile è di lui viene portato via da questa guardia che gli dice non darmi un motivo per spararti, non darmi un motivo, manco gliel'ha detto. Lui ovviamente guarda verso una direzione, vede lo zaino di Ellie, quindi è come se Braccio di Ferro avesse mangiato gli spinaci, la stessa cosa, con 4-5 sganassoni, perché ricordiamo che questo è anche un gioco di sganassoni ogni tanto. Sganassoni, di mattonate. Di mattonate, un po' di tutto, esatto. 4-5 sganassoni, disarma la guardia, la appiccica al muro, gli dice dimmi, puntandogli la pistola sullo stomaco, dimmi dove sta Ellie, e gli spara. Che è una cosa che uno ci pensa, che cazzata è? In realtà lì c'è proprio tutta l'irruenza e la cattiveria e la rabbia che lui in quel momento vomita fuori, perché lei è in pericolo, cioè lei è veramente, siamo alle strette, cioè nel senso lui sta per perdere l'ultima cosa che finalmente ha riconquistato, che è l'amore o l'affetto verso... Sta per risucciare quello che è successo in Israele. Esatto, ancora peggio. Tra l'altro il fatto che lui non l'ha protetta, come è successo con la figlia, no? Perché comunque alla fine la responsabilità era sua. Quindi lui gli spara, la guardia gli dice, cioè presa dal dolore, gli dice dove stai, lui gli spara nuovamente, quindi praticamente uccide. E si fa strada avanti verso la sala operatoria. A sganassoni, a spadate, a cose, insomma, un po' di tutto. Fino a che lui non entra praticamente, e questo è forse l'unico momento in cui si ha, al di là del modo in cui si arriva in sala operatoria, e quella è un... Quello siamo stati molto, esatto, che può fare, noi siamo stati molto stilt e quindi siamo entrati tranquilli. Beati a voi, mamma mia, io ho fatto a lanciafiamme e molotov spianato. No, noi lanciafiamme non abbiamo praticamente mai usato. Troppo poco stile. Io sotto quando però ci stanno così, i tre bomboloni nel senso, là. Nel senso, allora, il punto A è la posizione di Joel, il punto B è dove è Ellie. Quello che tu farai tra il punto A e il punto B è questione tua. Ognuno di noi l'ha vissuta in maniera diversa. Ci sono qualcosa come 15 soldati nel mezzo. Quindi esatto. 15-20 soldati. Quando tu entri in sala operatoria è ancora peggio, e qui poi vorrei sapere un po' com'è, perché lì hai veramente l'unica possibilità di interazione che sia leggermente diversa da quello che è ovviamente il binario narrativo, che io ribadisco è comunque la soluzione migliore per poter ottenere veramente una narrazione fatta in una certa maniera, è quella di decidere se ammazzare o non ammazzare le persone che stanno in sala operatoria, tranne il primo che ovviamente lo devi ammazzare per forza. È scrittato. Ok, quindi l'infermiera e l'altro medico puoi anche non ammazzarli. Ok, io so che c'è gente che ammazzato tutti. Sì, con lei che urla. Preso dalla foca, non ci ho visto. D'altronde non me ne frega più niente. Per me contava solamente Ellie. A quel quindi. Punto era coerente. Però in realtà invece noi abbiamo preso e ci siamo portati via Ellie, perché era più la fregola di andarsene, del fatto che potrebbe arrivare altre guardie e roba del genere. Sì, esatto, per me è stato uguale. Nel senso che io quando mi sono reso conto che potevo scegliere, ho detto: ma addirittura posso scegliere se lasciargliela o no. Invece, no, loro ti fanno ammazzare prima per farti capire che non si scherza. No, esatto. E ma invece poi dopo ho lasciato in vita la donna. Gli altri due se ne stanno comunque acquattati contro la parete, diciamo, senza provocarti né niente. Come ha detto, esatto. Come ha detto Giuseppe prima, poi quando tu esci e porti via lei, incontri la capa delle lucciole che praticamente dice: guarda, stai facendo una cazzata, tutta l'umanità potremmo salvare, potremmo fare belle cose, roba del genere. E anzi, c'è il momento in cui la stessa capa delle lucciole, che in realtà ha visto crescere Ellie e che aveva promesso alla madre che avrebbe sempre protetto la ragazzina, diceva: ti pare che per me è facile, nel senso, io ho fatto questa promessa, io l'ho vista crescere, però è l'unica speranza che abbiamo. Lui proprio se ne sbatte, proprio in una maniera più totale, gli spara e la uccide, perché ovviamente se no poi c'era però il problema. Spara in pazza, appoggia Ellie in macchina, torna indietro e la spara in testa. E la finisce, perché così, dice per sicurezza potrebbe essere il problema. Poi ovviamente durante il viaggio in macchina Ellie si sveglia, lui gli racconta la bugia, che è quella del fatto: ne hanno trovati tanti come te, ma in realtà non serve un cazzo sto vaccino, quindi stiamo da capo a 12. Hanno trovato già qualcun altro, mi pare che diceva. No, lui dice che hanno trovato una decina di persone come te. Però non serve a niente. Però fondamentalmente non serve a niente. Cioè, era quello un po' il altrimenti non sarebbe stato neanche credibile, no? Nel senso... Adesso che lo stiamo scusami, però prima ti interrompo perché volevo contestare un pezzo prima. Cioè, nel senso, adesso che lo stiamo ripassando, diciamo, no, la parte finale, c'è una cosa che fa crollare, però insomma, fa rimanere le cose un po' così. Nel senso, tu non fai un'analisi prima di capire, cioè, se devi aprire la testa di sta ragazza e capire, la devi ammazzare, cioè, non vuoi sincerarti che non ci sia una cosa, vedere se c'ha qualcosa nel sangue, se c'ha qualcosa nella conformazione. No, no, ti faccio presente non che loro avevano fatto gli esperimenti sulle scimmie, se tu ti ricordi, stanno. Sì. Cioè, loro sapevano quello che dovevano fare oramai, cioè, nel senso, non c'erano alternative. Ma poi comunque gli avevano fatto qualche esame, perché già sapevano dove andare a operare. Dove andare a parare, esatto. Il fungo, esatto, gli cresce sulla testa, ma quindi dobbiamo aprire. Sì, perché non... sapevano che il fungo cresce sulla testa, loro dovevano vedere poi cioè chimicamente che cos'era. Vabbè, che sì, bloccava il fungo. Io penso che, diciamo, gli esami fondamentalmente per ottenere il maggior numero di risposte era da un pezzetto, da un campione del fungo in sì, sé. Ma poi già loro avevano la spora pungiforme, avevano fatto un sacco di ricerche, dai, ve lo ricordate, c'era la cosa delle scimmie e poi la scimmia mozzica al professore, dai, su. Ma al di là di questo, che vabbè, può essere legittimo come questo, no, la cosa bella questo mi sa tanto 28 giorni dopo, questo della scimmia che mozzica, sì, vabbè, lì è proprio infetta. L'incipit, vabbè, sì, non è che, ma pure l'inizio di The Walking Dead, il fumetto era 28 giorni dopo, quindi se vai a vedere, insomma, più o meno si cannibalizzano un po' tutti. Comunque il problema è che lei gli chiede questa cosa, lui gli dà questa spiegazione, lei si intristisce ovviamente, perché lei già sa che è una bugia, quindi lei capisce il fatto che è un forte sospetto, tant'è che quando loro poi escono dalla macchina e finiscono, fanno il pezzo a piedi e c'è proprio il finale del gioco, lei gli chiede, lei lì è comunque già passato un po' di tempo, perché non so se è un bug, perché veramente alla fine, quando c'è la scena quando c'è la scena della sala operatore, dopo la scena della sala operatore, lei ha i capelli un po' tagliati, mentre nella scena dopo, quando scendono dalla macchina, lei ha di nuovo il codino, quindi non solo, ma anche vestita diversamente. Infatti, quindi, del tempo comunque è passato, potrebbe essere passato del perché tempo. Sono tornati al fratello, quel che sì, no, perché più che altro sono un anno, ragazzi, hanno messo un anno esatto, un anno dall'inizio, ci mettono diversi mesi. Sì, vabbè, comunque il tempo che loro ci mettono, vabbè, fatto sta che lei comunque dà l'ultima possibilità a lui, che poi in realtà è un'ultima possibilità morale che dà a lei anche a se stessa, ma in realtà, cioè, voglio dire, secondo me è la cosa che cambia, ma non cambia niente. Perché lei sa che è una bugia, gli chiede ancora se è veramente quello che lui ha raccontato è la verità. Lui rimane sorpreso di questa cosa lì per lì, perché era un po' come, cioè, lui ormai si era idealizzato il fatto che ok, è andata così, cioè, nel senso, l'abbiamo svangata così, finiremo a passare il resto della nostra vita dentro la centrale elettrica con tutta l'altra comunità e saremo più o meno felici. E invece lei gli fa sta domanda a bruciapelo e lui ovviamente rimane spiazzato, ed è il momento in cui secondo me lei capisce ancora di più che lui sta mentendo, e lui invece spergiura ancora una volta comunque la sua versione, che poi ovviamente è la versione falsa, il fatto che comunque quello che lui aveva detto, insomma, era la verità. Ora, il discorso è questo: di tutto questo impianto finale, noi abbiamo discusso tanto, ci è capitato pure, a me se non concesso fosse, comunque lasciando perdere un attimo il fatto che è un videogioco, potrebbe essere stato un libro, potrebbe essere stato un fumetto, o potrebbe anche essere stato, insomma, un film al cinema, il discorso è che cosa, abituati probabilmente a un certo tipo di narrativa cristologica, così come l'abbiamo sempre definita, mi sono interrogato sul fatto cosa avrei fatto io, se avrei pensato al bene dell'umanità o se avrei pensato al mio bene immediato. In realtà la risposta è molto meno semplice di quanto possa sembrare, nel senso che uno lì per lì dice sì, sti cazzi dell'umanità, io penso alla mia esistenza e proteggo le cose che mi sono care. È vero che dall'altra parte però tu comunque in questa maniera decidi di vivere in un mondo che comunque prima o poi ti ucciderà, piuttosto di aiutare magari a cambiare un mondo che magari ti farà fare una buona vita. Cioè, il discorso è che il dubbio sta proprio lì, cioè su quello che noi come individui, come persone in un contesto del genere, quindi difficile comunque da interpretare, perché noi possiamo anche provare ad immedesimarci, ma ovviamente siamo talmente lontani da viviamo talmente in un mondo che loro, che lei percula tra l'altro quando legge quel diario, che in realtà poi non possiamo dare una vera risposta, e qui possiamo rispondere un po' tutti quanti, Stefano compreso, perché poi in realtà qui poi il discorso c'entra non c'entra col gioco, e a maggior ragione c'è la menzogna finale, che tra le scelte rimane la scelta più difficile, perché lì per lì ci sta che lui racconta la balla, ma magari sei mesi dopo, quando lei glielo richiede, con il passare del tempo, spiegandoglielo, richiede che gli spiega lei che probabilmente lei è pronta a morire, potrebbe farlo in qualsiasi momento, e gli racconta anche il perché poi. Quindi dice è tutto vero, gli dice, è normale che... Però è vero che è anche in un contesto come quello, in un mondo così distrutto e così difficile, una bambina a 13 anni, a 14 anni è pronta a morire. Lei lo dice, lei l'ha detto, e il fatto che noi diciamo tante cose, Simone. Quante, no, in generale, dico, noi magari come appunto persone. Detto da lei che è cresciuto in quel mondo, ha un altro concetto della vita, ma l'ultima frase che, cioè l'ultimo discorso che lei fa, è dice: io stavo con la mia amica, che eravamo state mozzicate tutte e due, abbiamo detto romanticamente di morire insieme. Lei fa un discorso che è abbastanza complesso, diciamo, un pezzo finale, sto, no, ancora aspettando il mio turno. Esatto. Dice io sono pronto. Sì, esatto, cioè, anche perché poi, cioè, parliamoci di, ma che vita vive così, quindi... Beh, questo però non lo puoi dire, è vita nel momento in cui sei vivo e continui a lottare per vivere, cioè quello... Per quanto faticoso, esatto, per quanto faticoso sia, per quanto non è il mondo che noi conosciamo, e che comunque lei conosce quello di mondo, ogni giorno che tu vivi è un giorno che ringrazi perché sei vivo. Ma quello lo dovremmo fare sempre per altre cose, però sì, però in quella situazione, cioè io vederlo fuori veramente non c'hai un attimo di tregua, e l'unica tregua che ci potevi avere l'hai buttata, cioè lui ha sacrificato tutti, non che sia, perché io forse ho giocato con le stesse idee di lui, quindi ti mettono proprio in condizione di condividere quasi totalmente il sentimento di Joel, però alla fine lei era pronta, e io forse pensavo che pensavo di dovergli la verità, quello sì. Ma però è vero pure che è una 14enne, uno dei 50 che ha vissuto di merda e tutto, cioè non farglielo sapere sarebbe stato meglio, per non farla campare poi con un rimorso anche con l'odio verso di lui, che lui l'avrebbe persa comunque, no? Se lei moriva, lui l'avrebbe persa. Se lui dice la verità, la perde comunque, no? Sai, perché nel frattempo pure ammazzato, ti ricordi quello che ti ha cresciuto al posto di tua madre? Che ha sparato in testa. Però lei ti voleva, morta, eh. Però ti voleva ammazzare, eh. Allora, facciamo una cosa. Facciamo. No, ma magari poi c'era una cosa che diceva sempre su Outcast, che magari ha ammazzato pure uno dei più grossi neurochirurghi. L'ultimo rimasto, magari. In no, tutto no, magari. Ciò, probabilmente era così. Cioè, nel senso. Era lui The Last of Us. Capisci? Cioè. L'ultimo neurochirurgico. The Last of Us neurochirurgico. Versione della nostra categoria. Allora, versione limitata Ellie, la versione Joe e la versione neurochirurgico. Esatto. Io voglio sapere. Stai 20 ore aspettando. Sei fermo in una stanza aspettando, per Evono ti spara. Finito. No, comunque, dai, di là di tutto, vorrei sapere il percorso e l'opinione finale. Il percorso finale e l'opinione finale del finale, quindi non poi del gioco in generale. Da Luigi, poi Giuseppe, Marco ovviamente, Simone, e poi vorrei sentire anche un'opinione da parte di Stefano sulla scelta finale, che è proprio su questa unicità particolare, perché comunque io ribadisco, secondo me il tema affrontato in questa maniera qui in un videogioco probabilmente è ancora forse un'eccezione, forse un caso unico, però insomma magari mi sbaglio, perché può essere che su Zamacona 4 può essere che lo hanno fatto, insomma, cioè, gioco per PS1 dei giapponesi, non so. Lewis? Allora, ho due considerazioni, una mia personale sul finale e l'altra invece filosofica su poi come è andato realmente a finire. Quella personale è che non mi è piaciuto moltissimo il finale, dal punto di vista di coerenza psicologica o narrativa e soprattutto di cattiveria del mondo di gioco su come si era presentato, proprio così ostile, avrei preferito che la carneficina che fa Joel lì nell'ospedale si fosse risolta con un arresto brusco, cioè l'avessero fatto fuori fondamentalmente mentre lui scappava con forse era un po' troppo però, mi sarebbe piaciuto perché immaginiamo una scena in cui non è che moriva subito, ovviamente pam, colpo e via da Departed, quando sì, nel senso si accascia un attimo, ci prende una pallotta e magari o Ellie in quel momento si sveglia oppure no, la poggia a terra e si avvicinano tutti quanti, però c'è quella musica sotto di quando scappa. Se ci avete fatto caso, la rilevanza musicale è una musica drammatica al contempo dolce, sì. Che se devo tradurla psicologicamente, la prima volta che l'ho giocata, quella scena, ho pensato, ecco, alla fine si è fatto fregare dal rapporto paterno, cioè hai rivisto la figlia e adesso paghi le conseguenze perché sapevi che invece la tua missione era portarla lì e salvare, o quantomeno tentare di salvare, il resto dell'umanità. Ed Ellie era quello fondamentale che sapeva, era taciturna e tutto quanto eccetera, perché sapeva che probabilmente sarebbe rimasta lì stecchita sul tavolo operatorio. E quindi mi sarebbe piaciuto questo finale perché era molto emotivo e molto sentito, mi sarebbe scappata anche la lacrimuccia a dire alla fine è ritornato il dramma, l'hai voluto superare e ne paghi le conseguenze. La vedevo un finale degno, conclusivo e molto emotivamente carico, ricco, quasi alla finale di Snake Eater quando Big Boss piange sulla tomba. Insomma, mi piaceva. Come si è svolta invece la scena, per rispondere alla tua domanda, Simone, cioè sulla narrazione poi verso il finale? Avrei preferito che quello sguardo che ha Ellie quando poi finisce su di lei la ripresa, la camera, gli occhi, fosse invece lo sguardo nel finale che avevo detto io, cioè lei che si sveglia magari da qualche parte, magari nella comunità del fratello, guarda un po' gli animali, magari dei bambini giocare, piccoli, eccetera, e si vede che lei sta pensando un po' per sé nel vuoto, ultima scena finale su di lei e finisce così, come a dire Joel è stato il papà che io non ho mai avuto e io sono viva perché lui è riuscito a salvarmi fondamentalmente, comunque mi ha portato lì, come invece non è riuscito a salvare la figlia. Questo mi sembrava qualcosa di molto coerente, molto bello, invece è così e con questo finisco la mia considerazione personale. È un finale dove vengono montate bugie, tutte delle maschere o pseudo verità, perché poi non si capisce bene se ha letto o meno, se ha ascoltato o meno tutte le audiocassette, non tutti i giocatori hanno ascoltato le audiocassette, i registratori, quindi è molto confuso quel punto di vista. Però c'è un elemento che non so se voi sapete, avete letto i fumetti? Nel gioco, all'interno del gioco stesso, quelli, ma si possono leggere? Sì, perché solo il titolo no, c'è. Puoi, si possono... puoi leggere se li gira, puoi leggere la trama. Esatto, puoi leggere sul retro la trama. Ok, sì. Ok, avete visto cosa disegnano quei fumetti? No, cioè cosa disegnano? Che cosa raccontano? Vabbè, ho detto, non li ho presi tutti, quindi più o meno sembrava una specie di space opera. Però in realtà tu che cosa, diciamo, il quadro generale che ne è scaturito, che cosa ti è sembrato? È importante, praticamente è una storia che trovi proprio nella foresta finale. C'è un fumetto che racconta una storia che fa riferimento a come si comporterà una certa Valentina quando scoprirà che gli ha mentito un'altra persona X. E che cosa esattamente, cosa dice, cioè finisce così. Però fondamentalmente è un preannuncio di quello che tu avresti vissuto nel finale. Se per questo, allora, dai numeri invece, da quegli altri numeri che io ho raccolto, fondamentalmente era comunque tutta la questa space opera, fondamentalmente si può traccia un parallelismo con le vicende di Joel, perché comunque vedi che anche quei tizi là di quella space opera, quei protagonisti incontrano variate difficoltà. nel loro viaggio verso. Mi pare la base degli invasori, una cosa del genere. Ed è interessante, adesso non ce l'ho qua, però sarebbe interessante rileggerli per avere anche un piano di lettura che questa volta è diegetico, scelto dai sviluppatori, e quindi fondamentalmente magari ci dà un'interpretazione. Comunque, questo poi lo lasciamo a chi vorrà approfondire. Questo è il mio lato personale. Il lato invece che dicevo filosofico, vale a dire l'egoismo di Joel. Io ho letto un bello scambio su vari utenti su Outcast nel forum, dove parlano praticamente del concetto di egoismo da un punto di vista filosofico, dal punto di vista, diciamo, in questo caso anche legato alla storia, agli avvenimenti che sono accaduti. Vado a sintetizzare veramente brevemente. Tutti ce l'hanno addosso, molti con Joel, l'hanno dichiarato egoista, alla fine ha pensato soltanto a salvaguardare questa vita perché la disillusione del mondo che aveva vissuto e della figlia che le avevano strappato quegli stronzi soldati anni prima, adesso l'aveva reso talmente di ghiaccio che ha detto faccio quello che voglio io e vi privo dell'ultimo di noi che avrebbe potuto salvarci, e me ne vado, la salvo e via, uccido tutti. Questo aspetto egoistico però si scontra con un aspetto, sempre facendo riferimento al forum, a questi scambi che ho letto, che è quello prevalentemente della natura dell'infezione. Fondamentalmente l'infezione dei cordyceps, questi funghi parassitari, è una, se vogliamo, è una sorta di ribellione della natura che dagli animali, perché i cordyceps attaccano prima gli animali, esistono davvero questi funghi, fino ad arrivare all'uomo, è rappresentata come una sorta di evoluzione, cioè vale a dire la natura si sta eliminando dell'uomo secondo la forma com'è adesso, quella umana. Quindi spazzerà via la civiltà, spazzerà via tutto quello che conosciamo, il progresso eccetera, per far posto a questi esseri completamente diversi, completamente pazzoidi, malati che abbiamo conosciuto come nemici di gioco. Però succede che invece lei è immune, quindi entra l'elemento di dire no, allora aspetta, c'è la natura che sta resistendo, quindi sta dicendo guarda, l'evoluzione dell'uomo è possibile perché non ha attaccato su questa ragazzina, quindi vuol dire che la voce del deve figliare con chiunque, dovrà figliare sì. Poi infetti. Infatti non puoi scambiare liquidi con lei. Vabbè. No. Quindi cosa succede? Succede che l'egoismo assume varie forme, quello di Joel, cioè vale a dire non si capisce bene da quale punto di vista prenderlo. Una cosa è certa, è che non è sicuramente il salvatore o colui che ha condannato l'umanità, Joel. Si muove soltanto su delle linee che sono sue, personali. Lui ribadisce il fatto che se devi credere in qualcosa, credici e fai in modo di sopravvivere fino alla fine. Completamente slegato dal concetto di salvare l'umanità. Che abbia deciso o meno lui di condannarla o meno l'umanità perché è diventata stronza, nel frattempo ha fatto uscire il lato peggiore di sé, questo non c'entra col discorso egoistico di Joel. Cioè è qualcosa di totalmente avulso dal suo intento eroico o meno, e quindi da questo punto di vista secondo me si dovrebbe inquadrare il finale della Stovase, cioè una riflessione sull'egoismo umano e su quanto vale la pena per noi, a seconda delle esperienze che facciamo eccetera, e questo è il lato filosofico, salvare l'umanità oppure condannarla se ne avessimo una possibilità. Questo è secondo me il disegno, poi l'interrogativo, uno interrogativi possibili che lascia la fine. Beh sì, ma alla fine comunque, come abbiamo detto pure prima, cioè il dibattito anche fra di noi è stato proprio questo, no? Sull'aspetto prettamente egoistico, che poi in realtà sì, è vero, probabilmente non è il migliore dei finali in assoluto, però è probabilmente il finale più credibile, diciamo, per certi versi, ovviamente considerando il personaggio lui, considerando il personaggio lei e considerando l'abitudine comunque dell'uomo ad essere comunque tendenzialmente egoistico e conseguentemente anche bugiardo, no? Perché poi alla fine è anche c'è un priapismo psicologico, No, invece pensavo proprio dicendo cioè, pensando a quello che stava dicendo Luigi prima, e poi adesso invece continuiamo il giro, mi è venuto così sto flash. Com'è morta la figlia di Joel? Come è morta la figlia di Joel? Le sue braccia. Bravo. E quindi ripensando a quello che stava dicendo Luigi prima, il fatto sarebbe stato bello magari se lui ovviamente nella fuga magari moriva o roba del genere. Invece immaginate la scena di lui, per non ripetersi, dice, lui che si porta via Ellie, mentre che la porta via gli sparano e muore lei invece di morire lui. Quindi lui lì succede proprio, sì. Lì no, la carneficina non basterebbe, insomma, spremuta di sangue in ogni angolo del globo, insomma. E Simone, allora io, beh, ormai diciamo che è stato sviscerato il finale, mi ha lasciato il tuo succo. Sì, il mio è sicuramente ti stai riprendendo dalla cazzata che gli ha detto prima, ti stai riprendendo dal fatto che ha sparato in faccia a quella, perché a me cioè non è che è una cosa, lui la fa come se fosse non lavarsi le mani, per me, ma lui è spietato, sì, lui proprio, lui, perché tanto glielo diresti boom, ok, vabbè, ma poverino, vabbè. E poverina pure, quindi, un par di cazzi, però no, perché alla fine lei ti dice una cosa, cioè ha ragionato in una certa maniera e il suo ragionamento è stato coerente dall'inizio alla fine, aveva anche un senso, cioè aveva praticamente tutta la lucciola, stavano tutti aspettando questa cosa, stavano tutti, vabbè, ma quindi, sì, infatti no, per appoggiare la tesi di Simone, pure sta tizia comunque era abbastanza combattuta, tant'è che infatti se ascolti e raccogli i vari audio diari, sì, lo senti, sì, diciamo che si sta struggendo, che si domanda se effettivamente sia la cosa giusta da fare o meno. Sì, infatti c'è questo fattore, però diciamo che, ecco, Luigi ha messo in luce un pensiero che io non avevo fatto, di questa selezione naturale, a cui alla fine l'uomo potrebbe sottrarsi, anche perché poi non si sa effettivamente quanti sono, che tra l'altro a me terrorizza perché potrebbe lasciare spazio ad un sequel, ma non si sa quanti in tutto ciò, quanti umani come Ellie ci sono, perché magari si rimangiano, quindi è capace che finiscono ciancicati quelli immuni, quindi. Sì, però è capace pure che qualcuno no, e perché come Ellie, cioè su 6 miliardi di persone potenziali, insomma, beh, penso che lì, penso che 20 anni dopo 6 miliardi sono rimasti pochi, mi sa che... vabbè comunque sì, insomma, molto, senza andare a focalizzarsi su quello, diciamo che io ancora non so bene dove l'ho letto, ma per ogni pandemia, per ogni grande infezione c'è sempre chi è, non si sa per quale ragione, immune, e che poi ovviamente viene che immune viene, si immunizza, cioè non c'è il virus ma non gli manca, esatto. E quindi insomma il finale, da quel punto di vista, stai ancora assorbendo, cioè mi ha fatto un effetto strano perché hai assorbito la botta grossa che è scappata la macchina, io mi aspettavo di dico da là. Poi vi dico un'altra cosa, che io a un certo punto ero convinto, non so perché, che stesse finendo quando lui cade e si fa male. Diciamo che quando chiude l'autunno, quando chiude l'autunno praticamente, quando sta per morire, no, e poi comincia l'inverno, no? Io prima, quando arrivi all'università, e non all'università, all'ospedale, che era sì, all'ospedale, ah, e allo, o all'ultimo all'università, no, prima all'università e poi sì, all'ospedale, a Salt Lake City, diciamo, insomma, che poi arrivi e trovi quello che è morto praticamente dei pizzi, che è morto di vecchiaia, non si sa che è morto, lì seduto, e c'è l'ultimo registratore dove lui sente appunto che dice se ne sono andati tutti di là e se le volete trovare. E io lì pensavo che era praticamente gli sgoccioli. Beh, non invece è morto di vecchiaia quello, è morto di fungo. Come no, sta lì seduto, vabbè, comunque no, ma si era ammazzato, sì, mi pare, sì, vabbè, insomma, quel tizio lì che lascia l'ultimo registratore che becchi prima di scappare, che ti vengono dentro e poi cadi, io l'ero convinto che si sia alla fine, non lo so perché, e quindi già da lì me la vivevo un po', poi dopo ho capito, cioè, tu che dicevi il fatto pezzo, che questa cosa delle lucciole del laboratorio in realtà è una leggenda. E sì, quindi no, loro, no, anzi, ero alla fisica falliscono perché comunque non sto cosa non la troveranno mai. Sì, io me ero, io pensavo che era, invece poi dopo ricomincia, e quando questo è l'unico momento in cui un po' ho ceduto, che mi ha fatto l'effetto Uncharted, dove sei divertito e invece poi no, devi risparare 3 ore, e invece poi là poi succede che lui cade, vabbè, però qui andremo a riparlare del gameplay, che adesso non è il momento, però insomma mi sono riavvivato. Quando prendi lei, scappi, fai tutta quella parte, spari alla tizia di colore, dopo lui ti fa rigiocare per quanto sarà, un minuto neanche, giocare non ti fa secondi. Camminare, sì. Sì, vabbè, cioè, è gameplay, cioè. E ti fa questo finale che non, come quando muore la figlia, che in pratica è la morte più naturale, cioè nel senso non c'è una musica, non c'è, c'è questa sventagliata di colpi messa più o meno male, che la prende e lei muore, basta. Cioè, come succederebbe forse, tipo, non lo so, però so, come viene, come succederebbe nella realtà, no? Che c'è sta la musica, no? Oh, perché tu, papà, cioè quello che ti immagineresti, no? La discussione, papà, io sono sempre avuto per quello che piange, e invece no. Lei prende la botta, sente freddo, boom, e muore. E uguale succede nel finale. Cioè, lei è asciutto, molto asciutto. Ma quindi... molto cinema comunque. Sì, sì, sì, ma infatti è quel... c'è quella cosa che dice, vabbè, adesso dammi la... Dopo che ci siamo fatti tutte queste ore insieme, è successo di tutto, dammi un anno, perché poi nel gioco passa un anno sì. Dammi questa rivelazione. E invece no. E invece io continuo a essere miserabile come ero, sempre nel senso buono. Tu lo sai, però accetti questo compromesso, vai avanti, e magari lo ringrazierai pure, perché poi prima di andare a dormire dici, magari che sono contento di essere ancora viva. Poi lì per lì ti dici, ero pronta a morire così colà. E invece, il sentimento proprio... la prima cosa che ti, cioè la cosa, l'istinto ti dice di che sei stata fortunata e che dovresti ringraziarlo perché ti ha salvato, tutto sommato, anche perché non chiede neanche che fine ha fatto lei, per come se ne sono andati, non chiede niente. No, perché è lei, chiaro... è delusa. Sì, è chiaro che lei proprio si vede mentre tu t'ammazzi, che zompi fa, perché comincia a dire, ah, io sono vecchio, cioè c'è pure quest'area. Lui finisce, è la prima volta che alla fine del gioco, quando comincia a dire non c'ho più l'età per queste cose, così colà. Pure perché sa che lei, la vedi che è demotivata. Sì, sì. Cioè che proprio lo fa così, proprio affaticata. Quindi mi ha lasciato un po' così, cioè avevo subito voglia di confrontarmi in qualche maniera. Hanno con perso qualcuno, tutti. Senti. Sono presi tutti. Forse sì, perché sai che rimani con questa cosa, dovevi dire, ma che scelta ha fatto lui, che scelta avrei fatto io? Ti lascia, come dicevi tu prima, quando esci al cinema e quando cominci a parlare, capito? Lo so. A me, cosa che invece a me il finale mi ha lasciato abbastanza da stronzo, è perché poi io e Marco avevamo delle visioni diverse di alcune cose. Poi in realtà, sai, la verità sta sempre nel mezzo, quindi alla fine ci ho riflettuto su certe cose. E Marco, tu invece? Ma io stranamente ho ucciso soltanto il chirurgo, che l'ho scriptato, che sai, io sono abbastanza becero, però ho ucciso soltanto quello, perché vabbè, gli altri due stavano lì a pisciarsi addosso, per cui non mi è sembrato il caso di continuare nella carneficina. Perché poi abbiamo nel percorso prima del chirurgo, della chirurgia, ho sterminato tutti via stealth. È stato molto simpatico questa cosa, perché lì c'era la rabbia di volersi vendicare, sì, però sì. Nello stesso tempo lì fa stealth, perché devono soffrire piano piano. E quindi poi dopo, vabbè, ho graziato con i due dottori, e diciamo che il finale, tutto sommato, io e Simone ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, ci sta. Tutto sommato ci sta. Per me però perché è coerente. Cioè, io avrei fatto, tu avresti fatto. Io, allora, nel momento in cui la donna lì, la capa delle luci, dice: guarda, che possiamo salvare il mondo. Io ho pensato questa cosa. Si fotta l'umanità. Proprio, cioè, è una merda. Si fotta. È destinata a comunque estinguersi. E fa anche bene. Quindi muoia Sansone e tutti i figli tutti stesi. I figli suoi. E quindi, cioè, secondo me, io l'avrei fatto tranquillamente. Cioè, proprio, ma si fottano lei, le lucciole e tutti gli insetti luminosi, insomma, senza problemi. E ovviamente avrei mentito anche poi successivamente alla bambina. Perché se no, cioè, capendo la situazione, che comunque aspettava di morire, quindi alla fine il sacrificio per lei era anche auspicato, ha detto: senti, no, meglio lascia stare, inutile che muori, perché tanto è, sarebbe inutile, cioè, muori inutilmente, cerca di vivere, di trovare un'altra via, un altro motivo per vivere, perché tanto lo troviamo sempre, gli esseri umani lo trovano sempre, quindi vai tranquilla. E lei, vabbè, in effetti c'ha ragione, quindi tutto sommato non avrei cambiato molto, molto il finale, probabilmente avrei agito allo stesso modo. Simone no, Simone dice che avrebbe salvato. No, no, io comunque la riflessione me la faccio, cioè non posso dire in senso assoluto questo, in senso assoluto quell'altro. Quindi io ho pensato una cosa, che però è essere padre influisce sull'analisi di questo medio. Quello probabilmente sì. Di quest'opera più che del medio. Ma anche no, ma forse sì, forse no. Oh. Non lo so. Giuseppe. Beh, a me, diciamo, mi avete tolto ormai un po' tutti le parole di bocca, soprattutto Marco, che in realtà si fotta l'umanità, con il quale esatto condivido, perché dopo tutto l'hai visto lo stato in cui si è ridotto. Poi tutta l'umanità, chi è Marco? No, no, sì, l'umanità. Lo stato in cui è ridotto Marco, lasciamo stare, sì. Quello è anche peggio. È il peggio dell'umanità. E poi comunque in ogni caso non la vedo così brutto come finale, anzi devo dire che ricordiamo che pur sempre, per quanto è adeguato, un finale esatto, adeguato è bello di per sé, per quanto diciamo si elevi al di sopra degli altri videogiochi, non è un finale da videogioco comunque. Non è il finale che ti aspetti. Non arriva esatto ai soliti cliché. Non c'è, come avevi detto anche prima, la figura comunque di un salvatore o comunque, esatto. Quindi per me ci può stare. Con Giove diventano cristologici tutti gli altri, no? Tutti quelli che muoiono. Per una sua mano. Oggi quindi. Ho deciso che siete cristologici. Per me ci può stare appieno. E non muore, oppure non c'è appunto il sacrificio di uno dei due protagonisti. Sì, anche perché ultimamente negli ultimi 2-3 anni muoiono tutti, cioè, esatto. A prescindere, cioè, o si sacrificano, muoiono, o muoiono, si sacrificano, o si sacrificano morendo. Anche esatto. Stefano, invece tu? Io non mi esprimo. No. Vorrei prima giocare. No, è vero. No, no, dai. Non avendo seguito in prima persona tutta la vicenda in maniera diretta, in maniera partecipe. Vabbè, allora la domanda è diversa, so. Tu che avresti fatto? Avresti salvato la io bambina, me ne sarei, o avresti salvato sarei scopato la bambina come facciamo con le pecore. Avrebbe scopato la bambina prima di consegnarla ovviamente al lucciolo, ai nani. No, allora. Visto che le pecore non c'erano più, l'avrei spinta giù dalle scale dicendo: che te stanno a fare? Ma neanche io le faccio. Mamma mia, veramente. Neanche tu a te stesso le fai, Stefano. Mi chiedo io di fare un podcast da solo a lui. Guarda, siamo superflui e mezzo. È dalle 9:20 che siamo seduti. Su. Allora. No, io. No. Non salvato la bambina, ragazzina, avrei salvato l'umanità per il bene superiore. Non lo so. Oh, però forse non l'avrei fatto in prima persona. Non hai le palle! Una povera bambina. Non avrei fatto, cioè nel senso non l'avrei portata io probabilmente dai dottori eccetera, ecco. Sì, probabilmente sarei stato più vile. Noi parliamo di una scelta alla fine di un viaggio che nessuno di noi avrebbe mai compiuto. Questo è. Ma io infatti, ma certo, cosa facessi io, Stefano, sarei morto all'inizio, sì, esatto, del gioco, cioè, dopo il primo angolo saremmo già morti. Saresti anche arrivato al gioco, saresti morto direttamente, sì, la notte, sì, con già. Morso da una prima notte, morso da tua figlia, no, sono lì che mangio i funghi e a un certo punto muoio. Sì, quindi ecco, no, però fossi stato il personaggio forse avrei fatto questa. Perfetto, allora vi do un minuto e mezzo a testa per fare una considerazione finale sul gioco partendo da Luigi. No, io volevo dire quella cosa. Vai. Che non ho detto prima. Sì, sì, però ce la fai in un minuto e mezzo? Minuto. No, vabbè. Va bene, te ne diamo due. No, ditemi voi. No, se vai. Non abbiamo mai censurato nessuno. Anche se dovremmo. Allora, però. Questi sono praticamente degli appunti che prendevo mentre giocavo. Quindi ho voluto fare una sorta di omaggio a Last of Us in media res mentre lo giocavo. Entravo e bam, scrivevo. Innanzitutto. come considerazione finale, Last of Us mi è piaciuto per degli aspetti particolari che sono veramente miei, sono miei intimi, personali, e che volevo portare all'attenzione di tutti, perché secondo me connotano il gioco secondo quello che hanno creato davvero i sviluppatori. La prima cosa praticamente è che ti fa dimenticare di Uncharted, quindi ti fa, nonostante condivida molto del sapore grafico, anche c'è un'esuberanza molto meno marcata e molto più innocua rispetto a Uncharted. L'impianto di gioco è meno ginnico, meno sensazionale, va bene. È un'esperienza, mi ha detta, per chi è ambiente suggestionabile, così l'ho definita, cioè di coloro che hanno pazienza nel cercare la poesia in un dettato ambientale, oltre che la scena e tutto quello che può accadere sul schermo dal punto di vista action. E quindi cosa succede? Senti proprio la poesia insita nell'impianto grafico, negli elementi che hanno voluto rendere vivi e vivibili, dai retrocortili di erba e di luce, dal pulviscolo, le farfalle, i selciati spaccati. È proprio una prova quasi sensuale che seduce questo dell'ambiente. E poi soprattutto l'attenzione alla fotografia, perché è un videogioco cinematografico nel senso proprio fotografico, ecco perché hanno riposto secondo me molta attenzione nel lato estetico. Lo avverti per esempio quando c'è una transizione dagli interni agli esterni, il comportamento della pellicola, la rifrazione ottica e tutto quanto. La luce di Last of Us, io su questo mi sono molto fermato. In Uncharted le luci sono molto più fluorescenti, si sbattono all'occhio e creano una sorta di divisione netta, fluorescente in generale, sì, molto più patinato, sì, se assolutamente. Invece qui è una luce molto più come si può dire, opacizzata, ti fa pensare proprio alle spore batteriche che girano nell'aria e che sembrano che abbia contaminato tutto. La consistenza proprio della luce ha un sapore diverso, avverti quando c'è una cappa di smog, avverti il soffocamento quando poi addirittura devi indossare la maschera di protezione antigas, e tutto un gioco, io l'ho chiamato anche di infiorescenze infettanti, come i cordyceps. Parlando appunto di questo organismo parassitario, tutto il gioco fondamentalmente cerca di essere parassitario nei confronti del giocatore, e lo senti che c'è un pericolo di contaminazione costante, addirittura molto più che in giochi tipo Fallout 3, dove la contaminazione era legata a un aspetto di diciamo di radioattivo, in cui sentivi proprio il suono dell'ometer che impazziva fondamentalmente. Qua invece c'è proprio un senso estetico portato fuori, che anche se non si vede, però lo senti. E qua arriviamo secondo me al punto centrale. Oltre alla mancata spettacolarizzazione di Last of Us, tempi dilatati, anomali per un videogioco dei giorni nostri, e qua sta anche il coraggio di fare un gioco di questo genere, c'è un'intelligenza che muove sotto Last of Us, che è quella dei creatori che hanno, ripeto, lavorato per sottrazione. Non so se avete fatto caso, vi sarete sicuramente stupiti della quantità di ambienti esplorabili all'interno di Last of Us, dove in molti non accade assolutamente nulla, c'è semplicemente l'arredo, la vita come è stata lasciata, e tutti degli aspetti che però ci fanno entrare all'interno di quel mondo. Ecco, quello più l'aspetto più curato in generale. Esatto, per me è l'aspetto protagonista del videogioco, quello vero, cioè sì, lo dicevamo pure con Marco una volta mentre che esploravamo, dice: quanti videogiochi hai visto che entri dentro le case e però poi l'arredamento magari è spartano, sono tutti uguali, dove le case effettivamente mantengono le proporzioni viste da fuori e anche esplorate da dentro, cioè tu vai a vedere tutti i piani, esatto, eccetera, non è che tipo non ti fermi ogni volta e dici alla fine l'ambiente che esploro dentro la casa è molto più piccolo di quello che mi fa credere vedendo da fuori. Ecco, la bellezza di Last of Us è che crea un viaggio doppio, uno si compie all'esterno e uno all'interno di noi, dovuto grazie agli ambienti. In che senso questo? Secondo me tutti gli ambienti svuotati della componente umana, come accade in Last of Us quando noi esploriamo questi ambienti vuoti, a volte tristi, a volte immortalati, come se ci fosse stata un'eruzione vulcanica che abbia bloccato tutto in quel momento, cospargono il il gioco di una tensione io la definisco di tipo metafisico più che malinconico, cioè senti che c'è stata vita all'interno di un determinato tipo di ambiente, però sai che anche quella vita non c'è più, è sparita o si è sfrangiata in diverse poi altre storie parallele mentre tu stai vivendo la tua con Ellie. Questa tensione calma così rarefatta fa risuonare tutto metafisicamente, gli spazi aprono secondo me una tensione tipo ascendente, ti fanno proprio quasi sublimare il paesaggio stesso, che è come per il cinema, io lo chiamo di Cronenberg, molto in maniera molto più diretta, accade una corporeizzazione della scenografia, cioè la scenografia quasi quasi specchia i sentimenti interiori dei personaggi e viceversa, e la cosa bella è che è totalmente infettata, anche la malata, la natura che entra all'interno degli spazi e la fa sua. Questo è un aspetto secondo me fondamentale del gioco, che ci fa sentire ancora di più il portato magico, uso questo termine, del gioco però stesso. È un po', scusami ti interrompo, non voglio svilire, però c'è questa cosa, c'è, a me è sembrato più una specie di richiamo a siti documentari 20 anni dopo l'uomo, non so se l'hai visto, La terra senza l'uomo, La terra dopo l'uomo. Che fa? Sì, quelle sono piuttosto posticci, sono delle ricostruzioni. Che in America sono famosi, vanno tanto, sì. No, e qua te lo fa vivere in maniera totalmente differente. Anzi, il medium videogioco sta qui per questo. Non ce l'ho sentito il sapore documentaristico, ho sentito una realtà invece paradossalmente, per quanto vuota, molto palpabile. Sì. E volevo concludere dicendo che la natura, quindi, è il grande campo riflessivo su cui puntare l'attenzione, secondo me, per interpretare The Last of Us, quindi il finale, tutto quanto, eccetera. Che volevo dire, il lavoro scenografico, eccetera, la poesia della luce, la devastazione. Volevo concludere con una cosa, mannaggia miseria, non ti dovevo interrompere, scusa. Vabbè, niente, c'era, perché secondo me stavo andando proprio così a braccio senza leggere, c'era una cosa in particolare per concludere il viaggio che abbiamo fatto fondamentalmente. Scusate un attimo, ragazzi, se voi volete continuare, poi magari. Vabbè, intanto il commento finale in un minuto e mezzo, Giuseppe. Ma giocatelo assolutamente, anche perché è uno dei pochi giochi dove questa specie, diciamo, di fiaba fondamentalmente d'amore che fa questo contrabbandiere cinico, spietato, riesce comunque a sposarsi bene con tutta, insomma, la violenza, la crudezza di questo lungo viaggio. Insomma, per me è un gioco, comunque un'esperienza che va vissuta almeno una volta nella vita. Marco? Mi sono ricordato. Vai. Scusatemi, è solo un appunto. Tutto il gioco, quindi questa tensione di cui parlavo e di cui vi ho reso partecipi, è contenuta nell'immagine iniziale di quella tendina mossa al vento con quel tipo di luce, quel tipo di movimento che fa, quella calma e che non è messa lì a caso all'inizio del menu, eh? Non è messa lì a caso, lì praticamente è contenuto un aspetto poetico che loro volevano, parlo di Naughty Dog, è la rappresentazione artistica cinematografica di quello che è il senso di quel film, tra virgolette. Esattamente, questo aspetto qua è importante, e fate caso anche alla musica, molto discreta, di cui non abbiamo parlato, come commento sonoro e audio è proprio rarefatto, non ho voluto scervellarsi. Non ne abbiamo parlato, ma l'abbiamo sentita per quasi tutta la puntata, questo sì. L'abbiamo infarcita questa puntata. Questo mi era sfuggito, no, questo dettaglio. Così come anche Luigi, quel pugnale che poi spunta alla finestra anche dopo che hai completato il gioco. No? Sì, che è abbastanza significativo. C'è un pugnale, sì, abbastanza eloquente. Ah, comunque volevo dire che in tutto questo viaggio che abbiamo fatto, nessuno di noi si è proprio cagato di striscio il momento in cui i viaggiatori diventano quattro con quella famosa coppia di fratelli. Sì, sì. I neri devono morire, è normale. Cioè, se tu metti due persone di colore, non è che è un videogioco, devono morire. No, ma ci sta. Veramente dei personaggi ce ne stanno anche altri. C'è Bill. ci eravamo concentrati un po' su, su questo, insomma. Marco, il tuo finale. Ah no, scusa, Luigi. Okay. No, no, no, finito. Quindi la musica, come dettato sonoro, si specchia moltissimo la rarefazione. Grande colonna sonora comunque. Quindi, questo è bello, ed ecco perché dico che il finale, quando alla fine c'è una musica diegetica all'interno del testo proprio videoludico, là mi ha fatto pensare, mo va a finire male, diventa drammatico. E io vi rinvito a dire, com'è possibile che se c'è tutta quella musica mentre lui sta scappando, quindi questa tensione non può che finire poi in maniera ma in realtà male, finisce ma male in un comunque. Senso anche dolce, poetico, se vogliamo, e questo detendo male. E invece non è finito poi così, cioè c'è stata una carica di consapevolezza psicologica e che si è andata a perdere poi con quel finale con cui lui ha ammazzato lei e non lo so, perciò dico che c'è questa sorta di equilibrio che un po' vacilla nel finale. Si vede che è posticcio, nel senso che l'hanno ritoccato, perché sapete, l'avevano già sviluppato altri finali, sì, eccetera, sì, che probabilmente sia un po' piaciuto un po' però secondo me era quello più coerente, anche perché il gioco è stato duro, molto duro già di per sé, e un finale ancora più duro probabilmente sarebbe stato forse un sovraccarico che sbilanciava poi anche narrativamente il gioco troppo da un'altra parte, cioè nel senso dalla parte opposta. Quindi sai, guarda, che il finale è la cosa più difficile, lo sappiamo bene, perché quanti finali di merda abbiamo visto. Cioè, no, gli ultimi 10 minuti sono quelli più cruciali. Penso, Luigi, che ti stavi auspicando che non facciano un seguito, ma questo penso che se lo auspicano. Sì, no, sì, questo sì, ce sì, lo spieghiamo tutti, certo. Forse uno dei pochi, anzi, uno di quei pochi giochi dove non vogliamo il seguito. Guarda, sarebbe bello che Naughty Dog uscisse fuori con un'altra bella storia, o anche con una pausa, magari con un altro bel action adventure divertente, roba del genere. Guarda, al massimo gli possiamo con un action bello, sì, vabbè, al massimo potremmo uno che vorresti dire Uncharted 4, cioè pure lì hanno raccontato. No, con uno nel senso che non possiamo considerare divertente Uncharted più di 2 ore, però vabbè, poi facciamo un'altra puntata. Al massimo, se proprio devono fare un sequel, non ci tiri una cippa con questo, cioè proprio un'altra situazione. Sì. Ah, ecco, come fanno i Telltale con The Walking Dead, la seconda stagione, che è tutto, cioè l'ambientazione è la stessa, ma il contesto è completamente diverso. Infatti io quello stavo dicendo, al massimo, sarebbe bello. Al massimo. Simone, il tuo minuto e mezzo. Il mio minuto e mezzo è che spero che diventi un punto d'inizio non il gioco, ma il fare i giochi in questa maniera e scriverli in questa maniera. E che diventi un esempio, e da una parte spero che però si cambi un po' sto settings e che magari sì, sto cambino un po' di paura. C'è un po' rotto il cazzo, insomma. Ma purtroppo secondo me è proprio specchio dei tempi. Io sono convinto di questa cosa e non me la toglierà nessuno. Beh, guarda, perché negli anni 80 c'avevamo la guerra fredda, adesso abbiamo paura esatto, ma poi c'è i zombie, ma no, dell'autodistruzione in generale, della natura. Bravo della natura infregnata, quello poi anche perché poi siamo desensibilizzati. In linea di massima siamo io no, perché piango con Lilo e Stitch, però le persone normali sono abbastanza desensibilizzate, per cui Simone, l'uomo che piange lacrime virili, esatto, con la G, lacrime. E però dico, spero che c'è la cura, con quello che sia un contributo per poi il modo di fare, di fare, per spingere avanti un po', diciamo, tutti gli altri. Sì, ma non, cioè, non necessariamente sulla storia, perché poi ci perché io è molto paraculo anche come settings, perché comunque quando porti tutto all'estremo in questa maniera, poi ultimamente sto mischiando, però ultimamente sto vedendo anche serie TV, altre cose, insomma, che da una parte possono essere paragonate, perché c'è sempre questo gusto nel vedere pure la in inglese, vabbè, insomma, vedere la in quanto in basso si può scendere, no? Ma sai che penso che in una società come la nostra, che ha visto un po' di tutto, anche l'horror di suo magari non è più una cosa che ti spaventa o t'angoscia, Qual è narrativamente la cosa che veramente ci può angosciare? Ci può angosciare il vedere un'ambientazione nella quale noi sappiamo di non poter sopravvivere, perché poi quello è il discorso. Ed ecco perché c'è il grande fascino, perché chiaramente il non solo quello, secondo me la caduta di una civiltà in un modo o nell'altro ti pone intimamente e anche nella tua visione collettivista di fronte a situazioni che probabilmente noi non siamo in grado, non siamo neanche pronti, no? Cioè tu immagina dover vivere magari un mese in una società veramente come Revolution, dove non c'è più la corrente elettrica. Sì, però oltre a questo, sì, appunto, un po' è anche c'è questa paura che è sempre diventa archetipo, che rimani senza corrente, ma praticamente rimani senza quello, rimani senza aria, rimani senza qualcosa che ti fa che tanta gente non c'ha, cioè rimani senza la corrente elettrica, beh, ci campano metà del pianeta Terra, campa senza elettricità. Cioè, allora fa una cosa, vai, okay, fai le valigie, vai in no, un non capisci in, dico in sono una diritti acquisiti centrafricana e vedi quanto duri tu rispetto a loro, cioè, capito? Ma certo, però quello che voglio dire è che è il perdere i diritti acquisiti che ci fa paura, e questi diritti acquisiti li puoi perdere sia per cose soprannaturali che per cose effettivamente vere, come può essere una guerra, una rappresaglia, un terrorismo, insomma. Quindi quello che tu dici definisci diritti acquisiti, gli americani lo chiamano stile di vita, no? Nel senso che in realtà è il nostro mondo, noi lo vogliamo così e nessuno ce lo deve toccare. Ma non sono americani, Simo, perché siamo uguali noi. Ma siamo su questo, sui diritti, per noi, noi non ragioniamo sul difendere assolutamente il nostro stile di vita, che è quello di tenere accesa. Ma come no? Aspetta, se non ci sarebbe l'Italia così, fammi sì, scusa, che non è quella di tenere accesa la luce dentro casa 24 ore su 24, tanto ci sono le centrali nucleari. Il problema è che noi come civiltà, una parte della civiltà, un certo tipo di problematiche se le pongono, altri non se le pongono proprio. Cioè, chi è che non ha firmato i trattati sull'inquinamento? Cioè, ma manco la Cina, appunto. Non è che io difenda la Cina, non è che sono cinese io, cioè io ti sto di chi no, è che non l'ha però fatto, però sei comunista e mangi i bambini. Beh, sono comunista e ne vado anche fiero, voglio dire. Almeno io c'ho una posizione in alto. E vabbè, comunque al di là di questo, il tuo minuto e mezzo finito. Dai, ho finito Marco. Ma io rapidamente Marco, dico che comunque è un gioco, è un RPG, senza, è un RPG in terza persona plurale, ed è un gioco molto anche crudo, un gioco senza fronzoli di giochi mainstream normali, bello mi piace, è bella, è un gioco che comunque sicuramente trasmette molta emotività e che ci fa fare un viaggio nella nostra natura più oscura, diciamo, alla fine ce la tira fuori, e insomma è un gioco che va giocato, sicuramente resterà nella storia tra quelli più sicuramente coinvolgenti dell'ultimo decennio, questo ce lo porteremo dietro per molto tempo, speriamo che non ci siano dei sequel di merda, ma vedremo, insomma. Vabbè, poi in realtà io quando stava per arrivare questo gioco The Last of Us, già questo titolo estremamente evocativo, L'ultimo di noi, che poi in realtà era un po' una grande paraculata, insomma, sto titolo, perché in realtà evocava qualcosa che probabilmente non raggiunge fino in fondo. Comunque, al di là di questo, è un videogioco senza patina, è un videogioco senza diciamo senza essere particolarmente edulcorato, violento, crudo, racconta una storia e lo fa in maniera efficace, perché comunque nella sua, come abbiamo detto, linearità, nei suoi dialoghi puliti da blockbuster, però comunque paradossalmente anche credibili, senza né alti né bassi, perché non c'ha grossi sussulti dal punto di vista emotivo, cioè riesce a mantenere un binario pur avendo comunque dei cambi di ritmo, avendo anche comunque un suo stile anche dal punto di vista autorale, insomma fondamentalmente non dà grossi scossoni, ma nella sua interezza comunque ti tiene sempre bello, insomma, pizzo sulla sedia ad assistere situazioni di tensione o a vedere situazioni d'orrore, compreso il fatto che lui, per sapere dove sta Ellie, praticamente accetta il ginocchio a uno, insomma, il coltello. Che è una scena particolarmente, insomma, indicativa di quello che poi in realtà un gioco e una storia come questa ti aspetti. A me è piaciuto veramente tanto, l'ho aspettato tanto e l'hype era, forse dopo tanto tempo, era veramente alto, ed è stata la prima volta dopo tanto tempo che l'hype è stato compatibile con poi il gusto di averlo vissuto, cosa che invece tante altre volte non è stato così, perché abbiamo magari vissuto situazioni che ci hanno deluso nonostante la grande attesa. Spero che sia la stessa cosa anche con Beyond, anche se in maniera di... Ci staranno UFO, alieni, cose artificiali, intelligenze artificiali, cioè, diciamoci la verità, una certa sputtanera appunto. Vabbè, questo lo vedremo. Certo, sicuramente l'hype è diverso rispetto a The Last of Us. E vabbè, questo è quanto. Io... Però c'è sempre una certa quantità, anzi, questa volta accreditata di Ellen Page, fondamentalmente. Questa volta c'è Ellen Page, sì. Ma c'era anche qui Ellen Page, solo che poi Sony ha detto: no, troppe Ellen Page. Ma si tromba. Non lo so, di solito si tromba, però. Sì, beh, Cage ha sempre messo una scena di sesso. Ma anche più, Night, anche più. C'era pure in Fra Night, ce ne stanno due addirittura. Esatto, va bene, allora. Sì. Allora, qui diciamo che dalla prossima puntata in poi ci sarà una rubrica in più. Sempre se Biggio le fa. Sempre se Biggio gli va di falla. Che se no, la facciamo. L'anonima videoludica. Che in realtà non è ancora chiaro che cosa ci sarà, ma questa puntata. Ma è già offensivo, cioè già il nome è offensivo chiaramente. La farò. È discriminatorio, anche razzista un po'. È discriminatorio. Però in questa puntata chiaramente non c'è, perché oltre che già sapevamo, saremmo andati oltre. Quindi andiamo nella parte finale, quella della posta, perché forse Marco ha ripetuto qualcosa, e poi ci salutiamo. A proposito di anonima, sì, cioè qualcosa che riguarda l'anonima. Ok, vai con la posta. Bene. Oh, eccoci. Allora, siamo arrivati al momento dell'angolino della posta becera, quella che praticamente ci arriva sui nostri vari siti, pagine, poste elettroniche, porno, eccetera, eccetera. Ci scrive nel sito che ci ha commentato l'ultimo episodio. E vorrei già tutto questo, no? Beh, sarebbe figo. Beh, ma. Dai, no, non è, beh, non sarebbe esatto, figo. Ma. No, beh, vado, dai. Non è. 5 minuti in più. Ma neanche, sono 2 minuti. Vabbè. Ci scrive sul sito William Shatner. e ci dice. Ovviamente è stato tradotto. È stato, penso, sì, o con Google Translate, non lo so. Però è stato tradotto bene. Quindi ho probabilmente. Alla fine, pagato, forse a nominarlo, ci ha scritto. Forse ha pagato qualcuno per tradurlo. Che se andate su www.dietrologiavideoludica.it potete verificare. Che c'è anche uno scambio di opinioni. Di opinioni, anche io ci ho parlato con William. Lo interpreto, cerco di interpretare. Mi chiamo William Shatner e sono un alcolista. Ho incominciato principalmente a bere da quando quel bastardo di J.J. Abrams ha preso le redini di Star Trek e mi ha sostituito con quell'effeminato di Chris Pine. Sei troppo grasso, sei troppo vecchio, mi diceva. Ma vai a fare un finale decente di Lost e non rompere i cogli. Scusate, sto divagando. Dicevo. Da un po' ho iniziato ad ascoltare podcast come Archeologia Videoludica, Calavera Caffè, questo è sempre tradotto, io lo traduco. Certo. Ma è stato Dietrologia Videoludica a colmare questa mia voglia irrefrenabile di risolvere tutto con l'alcol. È da una settimana che vi sto ascoltando ed avrò sentito quasi tutte le puntate che avete registrato. Quest'ultima sui doppiaggi mi è particolarmente piaciuta. Chicche come Senza Lasciare Tracchia o La Papera del Doppiatore di Medieval, neanche le conoscevo. Penso però, nonostante facciano schifo, questi doppiaggi riescono comunque a lasciarci qualcosa. Voi stessi lo avete dimostrato con Metal Gear, ricordando le risate che vi siete fatti. Fanno parte dei nostri ricordi questi doppiaggi orecchi. La medicina. Ci lasciano particolari emozioni, proprio come la bolognese di Nocturne, che il solo pensiero nel ricordare chi si proteggerà delle forze del male mi fa ancora morire dalle risate. E penso in inglese quanto rende ancora di più questa cosa. Finisco col scusarmi per quei deplorevoli commenti su Google Plus. Era la mia parte irrazionale a parlare, non io. Grazie mille e continuate così. Mi state dando un grande aiuto per combattere il demone dell'arco. Da oggi solo caffè. Grande William Shatner, quindi che... ringraziamo qui Bill, grazie Bill. Che salutiamo, grazie, lo grazie. Salutiamo con tanto affetto. Allora, giro di saluti. Luigi. Sì, allora innanzitutto saluto te Simone, perché non averti più come conduttore ovviamente toglierà l'appeal a DVL, senza snaturarlo ovviamente, però che abbiamo imparato ad apprezzare in questo tempo, in questa prima stagione e principio della seconda. E poi un saluto a voi tutti i ragazzi che registrate, che siete appassionati, perché è sempre bello poter passare 2 o 3 ore a fare ricognizione su quello che è la nostra passione. E un saluto a casa a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato e che sono arrivati fino a questo punto, che è stata una bella maratona. Quindi io ti ringrazio Luigi, grazie. Ma penso che gli altri non è che sono tanto contenti di quello che hai detto, però comunque ti ringrazio veramente per il pensiero. Giuseppe. Allora, io innanzitutto ringrazio come sempre i nostri ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci e accompagnarci per queste 3 ore. Tutti i miei compagni ovviamente di podcast, e soprattutto il gran maestro signore dei podcast Simone Pizzi, maestro di cerimonie, esatto, che in ogni caso sarà sempre presente con noi in spirito, esatto, in spirito. e col quale ovviamente mi accingo magari poi anche a fare parte di altre cose. Lo ringrazio soprattutto perché comunque è pure lui che ha tirato anche me qua dentro, ed è un'avventura che mi accingo appunto a continuare con gli altri, e che davvero è una delle cose più belle che mi sono capitate questo della mia vita. Mi fa piacere veramente. Simone. Io entro sempre, cerco di restare sempre in punta di piedi, e sono contento che mi avete invitato. Anche troppo in punta di piedi, ogni tanto falli due passi. Non posso di niente, oh, mamma mia. No, fate parlare il piccolo. Guarda che si fa Simone. No, grazie che mi avete invitato. Ma grazie che è la trasmissione tua questa. Ha invitato che fai come mia, Luigi. È mia, è di tutti. Di tutti gli italiani. Ma lui, ma guarda che Stefano, vedrai che come vai via. Non mi invita più perché dovete sapere che mi ha bloccato su Skype. Ha fatto bene. Stefano, quindi, è veramente una persona pessima. Ma proprio... non mi chiama. Cioè, io ho avviato Skype, c'era lui online. E tutti facevano, che... dai, chiamiamo Stefano. Faccio, ragazzi, io non lo vedo. Ma eccolo, è connesso. Lo vediamo tutti. No, veramente, io non lo vedo. Ma io te l'ho detto, sarà avviato da cellulare. Vabbè, sì. E no, dico, ringrazio comunque che avete chiesto la mia su questo gioco importante che ho partecipato, perché non è che ho partecipato sempre, quindi, anche perché non eri previsto in realtà, però non so. Appunto, quindi qualcuno avrà dato buca. Ricordo che sei quindi... autoinvitato, quindi ecco, esatto, diciamocelo. Io mi sono autoinvitato. Come, hai detto posso venire pure io? Vabbè, se proprio insisti. Se, visto che devi portare i dischi, ballare i lenti, esatto. No, non se ne vede. E quindi, no, appunto, bello, bella puntata. Sono contento di stare sempre di fronte a questi maestri come siete voi tutti quanti. Simone, non te ne andare del tutto, perché qua saluti dappertutto. Tutti i podcast, ciao. Tante care cose. Tanto è sempre questa, in mezzo purtroppo, le palle. È una cosa seria. Poi ogni tanto parteciperò chiaramente, ma purtroppo abbiamo fatto delle scelte, sono delle scelte radicali. Poi vedrete anche dei cambiamenti nei prossimi giorni, loghi che cambiano, trasmissioni che cambiano, capelli questa lunghi, nuovi puntate di DVL, esatto, potrebbe anche essere l'ultima puntata di DVL. Marco. Sì, io saluto tutto quanti, tutto quanto, qualsiasi panno. È un po' come quella che anche Sara Tommasi, Simone, mi dispiace, ciuccio bene i vasi, no, come dice. Non ci vedremo più, mi spiace. Lo so. Non proprio mai più. Dovrei solo venire a casa mia a registrare, insomma. Peccato, vabbè, tanto romperò le palle in qualsiasi altro modo. E saluto anche Rizzere che ci ha mandato una mail, però non... Ah, già, è vero. Che ci ha mandato una mail, che si è offerto come redattore, però siccome che sta cambiando tutto anche qui. insomma, se infatti vedete non esce più una cippa da, un po' di tempo. Quindi, anche qui ci saranno grandi cambiamenti, grandi forse non vediamo, abbiamo fuoco a tutto praticamente e... c'è il videomessaggio già pronto, vero Simone? Che c'hai? C'è il videomessaggio, c'hai il videomessaggio davanti a una libreria con una famiglia, il mio videomessaggio IPN... pronto a reti deumidificate, chiaramente. Sapete che c'è il videomessaggio pronto, state tremando tutti. Sì, a me frega un cazzo, cioè... vabbè, per dire, vabbè, è finito, quindi no, vabbè, ci rivediamo alla prossima puntata. Di i tuoi blog dove ti possono trovare, www.stiamenters.com, la mia mail è snoutsvir@gmail.org. Vabbè, poi su Facebook. Oh, vedi che Simone ci sta lasciando davvero. Mi stavo strozzando. E vogliamo ricordare. Ricorda così, un attimo, scusate, dato, ne approfitto prima di passare la parola a Stefano. Di passare l'altra vita. Ricorda che sta nascendo un nuovo podcast. Ah, sì, sta nascendo un nuovo podcast. Perché tanto si sa che. Condotto da lui e da Michela De Paola. Se ne sente la mancanza. Immaginate che roba che possa abbiamo essere. Fatto, abbiamo deciso di fare qualcosa su cui io e Michela siamo molto esperti, e cioè la cucina. Quindi, no, di culinaria. Proprio di culinaria, quindi io pensavo fosse una cosa porno, invece no, invece bisogna parlare di cucina. E quindi, sì, a Gordon prossimamente Bleff. Questo podcast che si chiama appunto Gordon Bleff verrà pubblicato, non si sa quando, non si sa come, non si sa neanche perché. E soprattutto il perché. www.gordonbleff.wordpress.com, adesso ancora il sito è vuoto, però probabilmente entro una decina di giorni uscirà il primo episodio. Stefano. Sì, io vi ringrazio. Vi saluto e vi ringrazio per avermi tenuto qui per 3 ore. Sono molto contento. Avevo il mio fratellastro in casa e l'ho dovuto intrattenere con dei giochi di luce. Giochi di luce. Sì. Niente, sto cazzeggiando. No, vi ringrazio. Mi dispiace che Pizzi se ne vada, ma io non ci credo. So che Pizzi tornerà al prossimo episodio con una sotto altra forma. Ci abbiamo un nuovo membro del team. Abbiamo Rossella. Ciao, sono io. Sono. Suor Bethesda pure. Sì, sì, no, secondo me lascerà messaggi minatori. Tipo, ah, questo. No, ma io non. Oh, mi sta bene, mo c'ho pubblico io per i fatti miei, mo ci aggiungo sta cosa. Come ho detto, mi dispiace perché in realtà poi questa è forse la più bella delle trasmissioni, perché è quella che ha creato il team più ampio. E il fatto che ci intercambiamo, il fatto che comunque abbiamo cominciato a conoscerci e diventare amici. Ogni tanto sicuramente parteciperò. E a livello coordinativo e anche di creazione degli episodi e di conduzione, che io purtroppo non posso stare più appresso a tutto quanto. Dovevo far entrare qualcun altro. E ho dovuto fare. Ah, tra l'altro potrebbe anche entrare qualcun altro. Ho dovuto fare delle scelte. Però ogni tanto, insomma, se dovesse capitare magari dei temi, insomma, che posso dire anche la mia, visto e considerato che per il resto non è che ne so un granché, insomma. Per il resto è stato veramente una bella avventura, è stato divertente. Vi voglio bene a tutti quanti. E lascio il testimone a Marco e Stefano. Che sicuramente sì, belli come il sole. Belli come il sole. E mi raccomando, con l'anonima videoludica. E sì, appena mi dite che cos'è, perché io continuo a anche inventarlo te, a noi ci è piaciuto il nome della rubrica, mica la rubrica in sé, cioè noi mettiamo i copyright ovunque, possiamo fare tutto noi, che cazzo. Mettiamo i copyright ovunque, esatto. Poi dopo vediamo qualcosa ci facciamo, come chi compra i domini, la stessa cosa. Sì, buonanotte, esatto, a tutti, e ricordatevi che dopo, ciao, la sigla, grazie, ci stanno i Geronto Gamers, anche prima al solito. La sigla a volte dipende, no, dopo la sigla. Vabbè, questa volta dopo. Ciao. Prima, dopo. Ciao, mi mancherete, ciao, dai Pizzi, no, ciao. Ciao amici, welcome to Geronto Gamer. Ma cazzo, c'è un fuccio da internet. Oh, ma che sta a fa? Ma ancora usi la tastiera? Ma sta tastiera c'è 21 anni. Mi fido solo di lei, non di questi strumenti del demonio di oggi. Se vabbè, Ma che sa cerca? Sto provando a cercare su internet la trama di un videogioco. Mi è venuto in mente, non mi riesco a ricordare come finiva, ma non si collega. Dimmi, che ti aiuto io? Quale gioco? Coso, quel gioco, coso, dai, che ci avevo fatto pure una puntata di archeologia dietro ludica. Quello coso, dai, il tipo che protegge la bambina. Non mi viene in mente, dimmi qualche altro indizio, no? Ma dai, è coso, è quello che ci sta il mondo post catastrofi, con gli uomini che sono infetti dal fungo e la bambina è l'unica cura. Ah, sì, coso, ma Seffe. Ma no, ma che dici, quello era il gioco dei cheggi, mi sembra che si chiamava... Uncharted, ecco, Uncharted. Ah, sì, sì, vero, vero. Beh, che vuoi sapere? Ma alla fine, no? Non mi ricordo. Ma la bambina, ma te che muore? No, no, è lui che muore. Era cristologico, muore de morte cristologica. Ma che stai a te? Ma muore lei. Te sei rimbambito, era lui. Io sono ribambito. Guarda che muori lei. Te mandi in galera la gente. In galera la gente. Senti, fammi una cosa. Ce l'hai il numero di... Saso. Chiedilo a lui, che lui lo sa. Sì, bravo, Saso, perché lui se lo ricorda. E ti ricordi che competenza che mostrava? C'aveva un capoccione. Lui ci lavorava con i videogiochi. Che professionalità. Pure oggi c'ha la lucidità spaventosa quello. Mi metto in viva voce, così senti. Pronto! Saso, ciao, Saso. Come stai? Ciao, Marcuzzo! Tutto a posto, e tia? Va tutto bene, beh, grazie. Dimmi! No, guarda, una stupidaggine, però io e Simone, no? Ci stavamo ricordando la fine di un gioco, ma ci è venuto un dubbio. Allora abbiamo detto, noi chiamiamo Giuseppe, che tanto lui se lo ricorda, lui ce la mette sveglia, è un professionista con la P maiuscola. Sì, che siamo esagerati, dimmi. No, ti ricordi quel gioco con la gente, i funghi? Ma come, Mario? Ma no, che Mario, no, quello con l'uomo e la bambina, è bel gioco intenso, profondo. Ah, The Walking Dead! Ma no, Giuseppe, dai, no, è quello del mondo distrutto, del fungo per la sida, che c'è sta la bambina immune, che forse è l'unica speranza dell'umanità. Minchia, dove sto andando? Della Stovasse? Ma sei sicuro? Certo! Che il protagonista deve scottare la piccirida Ellie in un posto dei picciotti ribelli per salvare un mondo! Dimmi! Non sono tanto convinto del titolo, però la trama è quella. Comunque, alla fine, chi muore? La bambina o l'uomo? Molto di due! Joel, salva piccirida, che volesse sacrificarsi per salvare i picciotti sopravvissuti picchiandola a culo! Chiuso sacrificio, non è necessario! Ah, che bello finale! Forti, che io l'emozione! Sì, certo. Vabbè, grazie, Giuseppe. Un saluto e un abbraccio. Niente, Marcuzzo! Baciamo le mani a Don Pizzi! Sì, vabbè, ciao. Niente, stasimo giocati pure Giuseppe. Sei rincoglionito, non si ricorda più niente. Ma quanto mi dispiace. Meno male che siamo rimasti ancora io e te, che un po' se salvamo. Comunque, io a Saso, per sicurezza, non gli chiedo più niente. Manco io, I have been fed, that's a fact. My credit card purchases get me cash back. No one else gets these rewards. Sergeant, that is just plain untrue. What in tarnation? Sir, PenFed's PowerCash Rewards card isn't just for military members. Anyone can get cash back on all purchases. Ah, figgins! You've ruined my favorite song. PenFed Credit Union. Visit PenFed.org/PowerCash. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.